inevitabile percorrere nel loro svolgimento materiale, tardi, dalla vicino, adesso finalmente anche i lì hanno percorso nelle loro strade consiglio. Ecco. E allora la prima domanda ovvia: qual è la posizione delle potenze secolari a Trento? Credo che occorra ricordare con estrema abilità termini di questa presenza, perché si condizionano, spiegano, a mio modo di vedere, ciò che poi accadrà. Naturalmente è una posizione la cui determinazione va fatta da due punti di vista: da un punto di vista, per così dire, astratto, di principio, qual era il posto riservato dall'ordinamento del Consiglio, se così si può dire, sappiamo che non è istituito un regolamento del Consiglio, nel senso in cui se ne può parlare del Vaticano I, del Vaticano II, peraltro esiste certamente un ordinamento riconoscibile del Consiglio. Qual era la posizione dei principi in questo ordinamento, ma anche seconda via di approccio, qual è stato in concreto la posizione dei principi nella legge. Naturalmente tutto questo verrà detto in modo estremamente formale. La posizione, sappiamo tutti, è stato ricordato anche in questi giorni, ad esempio, dal collega professor Ruth, l'importanza giocato, il ruolo fondamentale giocato dall'imperatore, da Carlo V, nella fase di preparazione del Consiglio, nella fase di convocazione del Consiglio. Non vorrei qui, se non inciso, tornare sull'analogia tra Costanza e Trento, per dire che forse è un'impressione un poco, come dire, sbarazzina, ma che forse da questo punto di vista Paolo III è stato abbastanza scaltro quanto Giovanni XXIII per capire che se il Consiglio non lo convocava, finiva che lo convocava l'imperatore, esattamente come allora con il mondo. Ma in ogni caso, certamente un ruolo estremamente importante, e poi nelle sessioni noi prendessimo il diavolo nell'aula consigliare, che non sono dati puramente formali, siamo attenti, perché siamo in un periodo in cui, nel limite possibile, l'aspetto esterno corrisponde alla realtà delle cose, e perciò una posizione così di riguardo fatta, riservata, aspetti formali, aspetto dell'aula, elenco dei partecipanti riservata ai rappresentanti, corrispondeva all'effettivo spazio riservato nella vita del Consiglio. C'è anche un ultimo dato, perlomeno si può ricordare, che già è emerso in qualche altra delle nostre chiacchierate, e cioè il momento di accoglienza, di accreditamento di ogni oratore al Consiglio, che arriva un suo rituale, cioè che consisteva nella presentazione non solo delle credenziali che, per così dire, venivano fatte ai legati, ma poi in un discorso con il quale l'ambasciatore si rivolgeva al Consiglio e che trovava nel Consiglio una risposta. E talora sappiamo si è trattato di fatti abbastanza formali, talora sappiamo si è trattato di discorsi e di risposte che hanno segnato un punto notevole nello sviluppo dei lavori consigliari. Perciò una posizione che, senza volerla ancora maggiormente approfondire, ma luogo a discussioni, che è ritenuto ovvio Se noi pensiamo, ad esempio, alle discussioni che a cui ha dato luogo la ammissione o meno, poi con voto consultivo, di rappresentanti vescovi, noi possiamo capire quanto fosse ovvia la presenza delle potenze. Ma qual è stato poi il peso reale, la posizione reale delle potenze? Naturalmente qui gli episodi sono infiniti, molti sono stati ricordati, credo sia inutile adesso per fare una lunga lista. Mi pare che si possa ricordare già, si possa ricordare che si è già accennato due giorni fa, e cioè le osservazioni molto pertinenti che Dina Sasso ha proposto di una presenza estremamente sommessa. 1562-1563, certamente mi pare una crescita non solo quantitativa ma qualitativa del peso degli oratori al Concilio, e, ma questo è certamente molto opinabile, secondo me, soprattutto dopo la venuta a Trento di Morone e la svolta indubbiamente in senso politico che Morone dà ai lavori del Concilio per portarlo alla costruzione. Certamente noi sappiamo che, e veniamo soprattutto all'ultimo, al terzo periodo di quello nel quale svolge essenzialmente il dibattito che ci interessa, sappiamo che gli oratori vengono consultati previamente dai legati ogni volta che il Concilio si dispone ad affrontare nuovi argomenti. Quando dico ovviamente non vorrei essere frainteso, voglio dire che vengono consultati prima dei vescovi, anche dei vescovi importanti. Questo perché evidentemente è immaginabile che in un Concilio che si svolgesse oggi o nel Vaticano II avvenisse qualcosa del genere, ma è indubbio che a Trento questo ha può essere dimostrato con una messa di documenti in linea. Consultazione previa non solo sull'argomento da porre all'ordine del giorno, ma normalmente anche sul merito dell'argomento, cioè sul modo, sui contenuti di ciascun tema decreto. Chiedina segnalava giustamente che quando i legati si trovano a restringere il tempo a disposizione dei teologi per le discussioni previe, discussioni che avvenivano prima della discussione del plenum dei vescovi sui progetti di decreto, chi non viene sottoposto rigidamente a queste limitazioni? I teologi del Papa e i teologi dei principi. Tutti gli altri sono sottoposti invece a dure limitazioni di tempo. E infine una occasione che mi piace ricordare, verso la quale indulgo un po' con le discussioni antiche, e cioè l'occasione quando nell'agosto del 1562, durante il dibattito sulla concessione o meno del calice ai laici nella Unione, cioè la concessione della ripresa legittima del uso delle due specie, per l'istanza che viene avanzata in questa direzione da parte degli oratori imperiali, viene argomentata e giustamente Edino l'ha sottolineato, tra l'altro con l'argomento che l'imperatore porta avanti questa istanza di fronte al Concilio a favore, forse potremmo dire il nome degli imbecilliores in ecclesia, che è certamente un'espressione che non può e non deve essere eccessivamente caricata, ma che forse lascia intravedere o negli oratori o in qualche uno dei collaboratori di Ferdinando la percezione che l'imperatore ha nella sua presenza al Consiglio anche una funzione non solo di tutela dei propri interessi, e non c'è dubbio che anche la posizione del Cali dei laici aveva un grosso risvolto di interesse politico per la tranquillizzazione dell'impero, però lascia intravedere, credo, anche la percezione di una problematica più complessa di rappresentanza dei fedeli, di coloro che nella Chiesa del tempo non hanno direttamente voce. Ecco, in questo quadro sommarissimamente ricordato, quando, come, perché si parla di una riforma dei principi? I precedenti rispetto a ciò che avviene negli ultimi mesi del 1563 sono per certi aspetti molto poco significativi. In qualche elenco, è stato ricordato anche ieri, mi pare, in qualche elenco di queste specie di carriere d'oleanza a proposito degli impedimenti frapposti alla residenza dei vescovi, certamente ricorre anche la doglianza nei confronti degli impedimenti causati dal potere secolare. In Europa e anche, appunto, quale si è ricordato, nel territorio della Chiesa, si fanno cenni all'eventualità di discutere, ma siamo estremamente vaghi e generici, questo argomento. Anche poniamo da Belmonte durante il periodo bolognese per dire che tra le tante cose che a Bologna non si potevano fare, anche questa non si poteva fare perché a Bologna il Consiglio era proseguito dai rappresentanti delle potenze, dagli oratori di primi. E così nel 51 Morone, nella congregazione cardinalizia che a Roma discute la ripresa o meno del Consiglio a Trento, tra gli altri argomenti che sviluppa, ricorda anche la difficoltà che sarebbe potuta nascere nel ritornare a Trento per l'eventualità della discussione della riforma. Ma per me, dico io, l'argomento non entra nel dibattito conciliare se non nell'istante del 1562 per la prima volta in un modo fugace, ma che mi sembra importante ricordare perché è significativo, e poi nella primavera estate del 1563, in cui parleremo più avanti. Cosa succede nell'estate del 1562? Lo sappiamo tutti, l'estate del 1562 è dominato e laterato dalla discussione se l'obbligo della residenza dei vescovi fosse o meno di diritto. Questo è la pena e il dramma dell'estate del 1562. In questo contesto c'è un gruppo di vescovi zelanti, nel senso che anche lì abitualmente usato, Otranto, Matera, Pienza, Nio, che attaccano sistematicamente l'eventualità, sono ostili all'eventualità che venga votato, che venga riconosciuto il fondamento del diritto divino dell'obbligo alla residenza, i quali introducono in questa discussione il problema della necessità di riformare i principi onde rimuovere gli ostacoli alla residenza che i principi oppongono. Qual è il significato di questa improvviso accendere del problema della riforma dei principi? Mi pare difficile avere incertezze nell'indicare che si trattava di un siluro contro la dichiarazione dei diritti divini. Si si era ben convinto che se si fosse potuto far avvenire la discussione sulla riforma dei principi, sicuramente dello Ius Divino si sarebbe parlato. La lezione di Ludwig non prenderà poi la sua strada, ma nella primavera estate dell'anno scorso l'argomento della riforma dei principi riemerge non più però tra i vescovi, ma nella corrispondenza tra Borromeo e i legati. E nel luglio del 1563, nel nostro pacchetto, siamo in Trentino Alto Adige, possiamo usare questa espressione, del grosso pacchetto di riforma che viene messo in circolazione, si trova anche una parte dedicata alla riforma dei principi. Questo testo viene distribuito nel luglio del 1563 solo agli oratori dei principi, ma ho detto prima che questo non è una novità e non è un sfruttamento speciale a causa dell'argomento, ma certamente questo testo sulla riforma generale della Chiesa e in esso la parte dedicata alla riforma dei principi suscita immediatamente estrema attenzione negli oratori. Si tratta di un testo, ricordiamo rapidissimamente nel suo aspetto esterno, che consiste per la riforma dei principi in un proemio, in 12 brevi capitoletti e in una conclusione. Questo testo avrà una serie di successive relazioni che vorrei riepilogare schematicamente per parlarne poi con maggiore calma. Possiamo indicare come prima relazione questa del luglio 1563, ma già verso il 20 agosto del medesimo anno i legati mettono in circolazione una seconda redazione di questo medesimo testo. Sono intervenute molte altre modifiche anche nel pacchetto globale sulla riforma, ma anche del testo sui principi viene messo in circolazione una seconda redazione che si presenta con un proemio e 15 capitoletti. Questo testo viene di nuovo dato agli oratori dei principi, ma questa volta viene distribuito anche ai vescovi. Nel settembre successivo viene in circolazione una terza relazione, cioè qualche settimana più tardi, non è facile datare esattamente questa terza relazione, datarla entro il settembre, sicuramente il settembre del 73, che conta ancora di un proemio e tornata a 12 capitoli, lo stesso numero della prima redazione, ma il dodicesimo di questi capitoletti comprende anche la conclusione. In realtà, di tutto questo materiale, quasi nulla arriva al porto della approvazione in Concilio, perché in realtà si avrà in ottobre una quarta redazione, se così si può dire, perché il salto rispetto alle precedenti è molto forte. Si tratta di un progettino molto, molto più rapido, anche nella sua stesura materiale, che nasce dalla corrispondenza tra Ferdinando I e Morone, che viene probabilmente riformulato, come quasi sempre avveniva, da Paleotti, approvato da Borromeo e arriva alle soglie della sessione finale del 3-4 dicembre del 1563. Anche se la sessione finale riserva una piccola sorpresa, di cui parleremo più avanti, nella misura in cui fondamentalmente viene approvato la provata, questa che abbiamo chiamato quarta redazione, abbiamo introdotto una quinta redazione che importa alcune modifiche abbastanza marginali al progettino Ferdinando Morone Paleotti, e un'aggiunta di cui io personalmente non sono riuscito a scoprire la fonte, l'origine, che probabilmente è nata nelle convulse trattative e lavori delle ultime notti, ma comunque fa parte del testo approvato nella sessione. Naturalmente c'è anche molto materiale, c'è notevole quantità di materiale inedito. Il materiale inedito che ho detto io per questo argomento è stato fondamentalmente in due luoghi, è conservata per una parte alla Biblioteca Nazionale di Napoli, dove c'è una serie di fonti sulle varie parti del progetto di riforma e anche perciò anche su questa parte del progetto di riforma, ed è custodita per un'altra parte, come ha segnalato Prodi nel suo lavoro su Paleotti, nell'archivio Paleotti, dove erano conservate la segnalazione di saliva, per dire la verità, anche al Consiglio Tridentino, erano conservate l'archivio Paleotti, i testi delle reazioni degli oratori delle varie potenze a questi progetti, ma Prodi ha completato e rettificato la segnalazione del Consiglio Tridentino, sia nel senso di dare notizia che gran parte del materiale l'ha segnalato, era andato distrutto nelle vicende belliche dell'archivio Paleotti, ma aggiungendo che vi era altro materiale non avvertito a suo tempo dall'editore del Consiglio Tridentino e che poteva largamente colmare la lacuna del materiale andato distrutto, si è anche promesso la pubblicazione da parte dell'intima Comunità. Adesso io credo di dover evitare, spero pochi minuti, ma per evitare di parlare di una palla vuota, qualche minuto la direttore sera dentro a questo progetto di riforma dei principi. Anche perché naturalmente sotto questo titolo di riforma dei principi ciascuno di noi legittimamente può mettere cose abbastanza diverse e svariate. Percorriamo rapidamente sulla base della prima redazione, cercando di vedere di volta in volta le varianti o le modificazioni significative introdotte dalla seconda o dalla terza redazione. Della quarta e della quinta parleremo separatamente, perché il salto, come ho detto, tra le prime tre e le ultime due redazioni è talmente forte che è impossibile metterle realmente in parallelo. Il proemio si limitava a dichiarare che il Consiglio intendeva elencare in questa parte del progetto di riforma gli impedimenti che erano messi in che erano frapposti dalle potenze secolari, e riteneva subito di dichiarare che chi avesse continuato a frapporre gli ostacoli che poi venivano indicati nel testo alla residenza degli ecclesiastici sarebbe in corso nella comunica. Questo è subito uno dei passaggi che, come dire, nervosi del testo, che suscita reazione e sdegno negli oratori delle potenze, e che rimarrà ancora nella seconda redazione, ma che viene fondamentalmente eliminato nella terza redazione. La terza redazione avrà avrà questa singolarità, e cioè il tentativo di uscire dal contrasto con i principi mettendo l'accento non sugli ostacoli che i principi frappongono alla residenza, ma sugli ostacoli che i ministri dei principi oppongono alla residenza degli ecclesiastici, che è evidentemente un tentativo abbastanza ingenuo di attirarlo. Primo punto dei 12 di questa relazione. La riaffermazione della totale riserva alla Chiesa della giurisdizione, della competenza delle cause relative agli esiliati, anche delle cause penali. Questo era certamente il punto più delicato. Tant'è vero che su questo punto altri progetti successivi rimangono fermi. Addirittura la terza relazione aggiunge che si doveva poter eccettuare da questa riserva di giurisdizione solo il caso degli ecclesiasti che fossero stati accusati in modo certo e vero di assassinio. Naturalmente accusare in modo certo e vero di assassinio una persona prima del processo è un concetto per la sensibilità di una persona abbastanza aereo. Secondo punto, la riaffermazione della competenza del giudice ecclesiastico in tutte le materie non solo spirituali ma anche in tutte le materie miste, in cui cioè in qualche modo interessi di carattere spirituale si dovevano ritenere coinvolti. La seconda relazione ribadisce, la terza pure aggiungendo, e mi pare aggravando, dico così perché la tradizione ha ritenuto che la terza relazione fosse tu pur una relazione alleggerita, in via di principio. Io ritengo che un'analisi più attenta potrebbe mettere in luce un andamento meno lineare. Su questo punto la terza relazione, ad esempio, se ne parlava ieri, aggiunge esplicitamente la condanna dell'appello a Babuno, di cui deve sia ricordato l'importanza in Francia, ma non solo in Francia. E precisa l'assoluta irrilevanza di qualsiasi rinuncia che il giudice ecclesiastico avesse fatto delle proprie competenze. E non solo la riaffermazione della competenza del giudice ecclesiastico, ma la irrilevanza delle rinunce che questo giudice avesse potuto fare, evidentemente in qualche modo sotto pressione del potere politico. Tant'è vero che sì, esplicitamente si prevede in questo punto la comunica per chi avesse voluto indurre il giudice ecclesiastico a rinunciare alla propria competenza. Terzo punto. Solo l'autorità ecclesiastica può nominare i giudici ecclesiastici. Nella misura in cui si ribadisce l'importanza del giudice ecclesiastico, bisogna garantirsi che il giudice ecclesiastico non venga poi nominato dai principi, ma venga nominato esclusivamente dall'autorità. La seconda relazione mantiene, come pure la terza aggrava però le pene contro i trasgressori di questa norma. Di soli potevano essere dispensivi, coloro che avessero preteso nominare giudici ecclesiastici che avessero tentato di essere nominati da autorità laica. Quarto punto, è una dichiarazione molto generica nella prima redazione, se è vero che viene poi via via articolata nella seconda e ancora più nella terza redazione, di rifiuto di qualsiasi impedimento o intromissione nell'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, non più nella sua sezione giudiziaria, ma nella sua sezione esecutiva, nella sua sezione di governo. Quinto punto, che ricorre solo nella prima e nella seconda e scompare completamente nella terza, nel caso della terza redazione, si dichiara invalida qualsiasi, o si deve dire dichiara invalida qualsiasi proibizione dei poteri secolari per l'assegnazione di benefici o pensioni a stranieri. Sappiamo che questo è uno dei punti dolenti delle rivendicazioni, ma teniamoci bene, era anche uno dei punti dolenti della riforma ecclesiastica, questa è una delle sentenze che faccio per inciso. E cioè che in questo paragrafo della riforma dei principi passano più o meno camuffati grossi problemi della riforma ecclesiastica futura, perché che in una diocesi o in una parrocchia o in un monastero francese non ci fossero ecclesiastici né italiani, né tedeschi, né inglesi, non era solo da rivendicarsi, né principalmente da rivendicarsi contro i finti, ma al contrario era da rivendicarsi contro la curia romana. Per cui indubbiamente è molto interessante che si voglia presentare, questo è uno dei pochi punti, ripeto, che già una certa relazione è parito, di fare argine contro la richiesta che anche i principi avevano fatto, e allora mettono in atto, di rifiutare le assegnazioni di benefici a persone che non fossero nate nell'area mitica e politica del benefico. In compenso, per così dire, scusate, la terza relazione aggiunge un quinto punto che manca nella prima e nella seconda, in cui si invoca, sia pure un poco, come dire, genericamente, il rispetto, per così dire, di principio, diciamo, il rispetto della potestas in temporalibus degli ecclesiastici. Va bene, non della potestas in temporalibus di quelli ecclesiastici che godevano di autorità secolare, come il principe vescovo di Trento o come tanti altri che abbiamo ricordato in questi giorni, ma dei vescovi che non avevano una giurisdizione politica secolare. Sesto punto, il rifiuto di qualsiasi intervento dei poteri secolari nella attribuzione di benefici o di aspettative. Questo viene pure ribadito nella seconda e nella terza redazione, ma la differenza sta nella specificazione e nell'aggravamento delle pene per i trasgressori. Settimo punto, divieto alle potenze secolari, ai principi secolari, di percepire frutti o di nominare economi sui benefici vacanti. Sappiamo che c'è una delle grandi controversie che, ad esempio, direttamente non aveva niente a che fare con la residenza, perché è un caso tipico in cui residenza non si può dare, dato che c'è vacanza di beneficio, ma è una tipica di carattere economico, proprio di carattere economico. Però chiedo scusa, io non posso, per ragioni di tempo, fermarmi quasi mai su questi punti. La seconda redazione e la terza su questo punto aggiungono, in un modo abbastanza interessante e abile, una specificazione. I principi non potranno né percepire i frutti né nominare gli economi di benefici vacanti, neppure motivandolo con la necessità di proteggere i poveri o le chiese. È abbastanza interessante e delicato. Non c'è dubbio anche qui che argomenti di questo genere venivano usati in modo pretestuoso, ma non c'è altrettanto dubbio che molto spesso, durante la vacanza prolungata sufficientemente dalla curia romana, i veri spettanti alla chiesa e i poveri andavano in giro. Punto ottavo. Gli ecclesiastici non possono essere tenuti a dare un tasso o imposto né personali né reali, cioè sui loro beni. Voi capite che questo è una polveriera, infatti il lista dell'autore imperiale dice questo punto 8 da solo basta per respingere non solo il progetto, ma per saltare tutti i concili. E poi con maggiore pacatezza Ferdinando scriverà ripetutamente a Bologna, ma sì, immagina lei che cosa vuol dire nell'impero se i principi ecclesiastici non dovessero più pagare le tasse, che cosa rivoluzionerebbe nella costituzione dell'impero una norma di questo genere? Se dovremo poi renderci conto, no, a un certo punto, del perché di progetti così avventurosi. La seconda e la terza relazione tengono conto, o pretendono di tenere conto, di questa irritazione suscitata e introducono fondamentalmente due eccezioni nella relazione seconda, una prima eccezione, e cioè le imposte per la crociata, per la guerra dei turchi. Queste potranno essere imposte all'Italia. E la seconda redazione introduce, come dire, cautamente la possibilità che laddove vi era già una tradizione in proposito, tasse potessero essere riscosse nei confronti degli ecclesiastici con il consenso degli ecclesiastici. Non c'è dubbio che, ad esempio, la situazione in Francia era di questo tipo: con il consenso del ceto ecclesiastico si potevano riscuotere tasse sugli ecclesiastici. Non appunto. Si impone, si ribadisce il rispetto totale da parte del potere civile nei confronti degli ecclesiastici, cioè l'impossibilità di cambiare destinazione e perciò di distrarre dallo scopo ecclesiastico bene, a meno che non vi fosse il consenso delle chiese interessate. Questo rimane invariato nella seconda parte dell'Unione. La decima, il decimo punto esprime la necessità che i principi secolari non usino dei ecclesiastici per alloggiare truppe di passaggio. Siamo tutti per un grosso problema di carattere materiale, ma naturalmente non era una questione realmente importante. Questo ci aiuta anche a capire come la relazione intero, io dico, della redazione di questo testo, che ha alti e bassi molto singolari, accosta problemi molto costanti e delicati a problemi quasi del tutto banali. Comunque la seconda redazione ha lo stesso tipo di norma, la terza redazione sposta questa norma al numero 12, ma è un puro spostamento materiale. Punto 11. Contiene il rifiuto di qualsiasi forma di exequato o di placet, il discorso ritorna a livelli importanti. Non solo, la seconda versione aggrava perché ribadisce il rifiuto di exequato e placet su atti della Curia romana, si va di bene, è interessante, di atti della Curia, non di atti del Papa. Sugli atti della Curia si respinge qualsiasi exequato e placet, si aggiunge anche che non verrà più tollerato il riferimento a fanatici in qualsiasi area politica. Che suscita naturalmente delle reazioni estremamente violenti. Punto 12, punto conclusivo per la prima redazione. Per qualsiasi controversia che nascesse sugli argomenti precedentemente elencati, la competenza sarà esclusivamente dei vescovi, del luogo, degli ordinari locali, i quali in questo caso agiranno, la formula è classica e da cui veniva studiata esplicitamente, come delegati della sede apostolica. Si voleva sostanzialmente dire. Nelle controversie che nascono su tutti questi punti, l'unico giudice competente è la sede apostolica, sia pure in prima istanza attraverso gli ordinari locali. Solo l'ipotesi precisa la seconda redazione, l'ipotesi in cui fosse coinvolto nella controversia il vescovo del luogo, si ricorrerà alla competenza del vescovo vicino o del metropolitano. Non cambia il tempo, la nostra situazione tecnica. La seconda, qui finisce, dato una piccola confusione, la prima relazione, la seconda invece introduce un punto 13 che un poco erroneamente, secondo me, Protocini, che mi pare l'unico che si è interessato di questi testi, ha ritenuto l'unico passaggio interessante di questa relazione intermedia. Punto 13 comunque certamente è l'unico completamente nuovo e proprio solo della seconda relazione, prevede che qualsiasi privilegio della sede apostolica, che in precedenza avete autorizzato le potenze dei principi a compiere qualcuno degli atti vietati in caso precedente, qualsiasi di questi privilegi avrebbe dovuto essere sottoposto alla sede apostolica entro un anno dalla conclusione del concilio per essere confermato o meno. Che era sicuramente una trovata geniale, perché voleva dire rinegoziare ex novo tutti i privilegi concessi ai principi negli ultimi secoli. Se avesse avuto corso, questo avrebbe voluto dire certamente rinviare lautamente la data rima. Torniamo al testo in primo, il testo primo narra qui. Scusi, ma vuol dire il punto nono? Non l'ho capito. Sì, certo, volentieri. Il nono contiene questo, e cioè che i beni ecclesiastici non possono, i beni della Chiesa non possono essere né alienati né destinati ad uno scopo non ecclesiastico per un atto dei principi, per un atto del potere secolare. La conclusione del primo testo, dicevo, afferma che tutto quanto era stato precedentemente detto andava non solo rispettato, ma qualsiasi atto in contrario si doveva ritenere, si doveva ritenere nullo e cassato. E si aggiungeva che qualsiasi pretesa futura di rivendicare ad un potere secolare qualcuna di quelle competenze era soggetta comunque. Era la minaccia che era stata preannunciata nel proemio che viene formalizzata nella conclusione. Questa combinazione della comunica scompare nella seconda e nella terza redazione, dove, come ho detto, mette l'accento come destinatari del documento non più direttamente sui principi, bensì sui loro ministri, che si chiede ai principi di, come dire, moderare, di controllare. Sarebbe interessante entrare nell'analisi più dettagliata di questi testi, e una delle ricerche che sarebbe interessante fare, che vi invito solo a segnalare con una parola, è una ricerca sul linguaggio di questi testi. Sono dei topica che ricorrono in questi testi in un modo che a me pare non privo di interesse, ne posso segnalare qualcuno, ma proprio così, senza entrare minimamente, in Munitas Ecclesiastica, Libertas Ecclesiae, Publica Utilitas, Exequatur, Placet, c'è tutto questo linguaggio che fa parte naturalmente del bagaglio di questo tipo di controversie, ma che sarebbe interessante probabilmente analizzare nella accezione che di volta in volta queste espressioni hanno nei vari progetti. Ma cominciamo a lanciare qualche domanda alla quale io non so rispondere. Come mai questo testo? Perché questo testo entra nella riforma, nel pacchetto globale, in generale, di riforma? Questa domanda è una domanda legittima, perché nella primavera del 1563, come dicevo, la missione era stata oggetto di una serie di lettere scambiate tra i legati e Borromeo, il cardinale Pope. In queste lettere la linea che viene chiaramente delineata è questa: i legati non propongano la riforma dei principi. Se altri vescovi la proporranno, non ostacolino questa proposta, anche perché in questo punto si è, forse in un modo non completamente sincero, molto preoccupato. parte della libertà del concilio, non si dovrà in nessun modo limitare o impedire la libertà del concilio. Cioè, in sostanza, da Roma non si ritiene opportuno che i legati prendano l'iniziativa di proporre essi la riforma dei giudici. Si arriva un po' più avanti, all'inizio dell'estate, c'è una lettera di Borromeo che fa un piccolo passo avanti e dice, lascia intravedere, più che dire, che non sarebbe gradito a Roma se i legati ricordassero a qualcuno di quei vescovi che erano affezionati alla riforma dei principi di portarla avanti. Ma da questo al testo che noi abbiamo rapidamente riepilogato, secondo me basta non poco. E allora mi muovo la domanda, perché i legati hanno ritenuto di introdurre esplicitamente e con un testo di quel tipo la questione della riforma dei principi nel pacchetto di riforma generale della Chiesa? Io non ho trovato una risposta soddisfacente nelle fonti, perciò naturalmente abbiamo tutti questo rischio di tentare di capire, forse di tentare. Ecco, la proposta molto sommessa che io faccio è di ritenere che l'inserimento di questo punto della riforma dei principi nel pacchetto generale di riforma avesse ad un tempo lo scopo di tacitare, non c'è dubbio, l'atteggiamento degli zelanti, un gruppo perciò non piccolo, i vescovi, che erano fondamentalmente ostili alla riforma della Chiesa e che, come abbiamo già visto un anno prima, avevano sempre ritenuto che in ogni caso non si potesse proporre una riforma della Chiesa solo come riforma degli ecclesiastici, ma che una riforma della Chiesa dovesse, a loro modo di vedere, comprendere ecclesiastici laici, intendendo in questo, sotto questa denominazione, le chiese di potere secolare. Questa è certamente, credo, una possibile spiegazione parziale, ma c'è certamente una seconda parte di spiegazione che non si può omettere, che è certamente direttamente connessa con la prima, e cioè che né gli zelanti, né i legati, né a Roma, si ignorava che un punto come quello della riforma dei principi avrebbe potuto significare l'affossamento di tutta la riforma della Chiesa. Perciò, ecco, credo che questo metta un interrogativo non piccolo sulla sincerità del pacchetto di Morone, proprio nella misura in cui il pacchetto conteneva già innescata una bomba che nessuno poteva sapere quando sarebbe esplosa, ma che sicuramente, lasciata qui, sarebbe esplosa. Naturalmente ci sono delle altre domande, ma chi ha redatto questo testo? Io qui, di nuovo, in modo ancora più radicale, non so rispondere. Posso supporre, ma non mi piace, che anche questo testo non sia estraneo alla mano di Paleotti, ma semplicemente per un principio così di carattere, come dire, tecnico generale. Ci sono tante lettere del sottosegretario Rucci che dicono come Paleotti in queste settimane, in modo particolare, fosse operato del lavoro di redazione, di rifacimento, di messa a punto di questi testi. Però naturalmente nessuna di queste lettere che io sappia, oggi potrò dire certamente si scrive meglio, si riferisce a questo testo in particolare. Non mi piace questa paternità, dicevo prima, perché secondo me il testo è un testo brutto, è un testo controversistico, è un testo religioso, è un testo che vuole attaccarmi. Cercherò poi di spiegarmi perché, non solo sulla base del mio gusto personale. allora chi l'ha redatto e perché in questi termini così esclusivamente contro le donne? Forse si parte a rispondere ad un'altra domanda: perché la seconda relazione? Certamente la seconda relazione costituisce un tentativo di smorzare le reazioni molto dure che gli oratori, nel giro di 48 ore, i principi, nel giro di qualche settimana, avevano manifestato contro la prima redazione. Ma è anche ad un tempo un tentativo abbastanza ingenuo, perché la seconda redazione non introduce delle attenuazioni veramente interessanti se non attraverso questi scalottai, che ho già ricordato più volte. Non sono più i principi in primissima persona che vengono aggrediti, bensì i loro ministri. Sarebbe interessante fare l'analisi di queste reazioni in un modo originale. Faccio invece qualche rapidissimo cenno. Mi sembra molto interessante una reazione abbastanza ampia, qualche pagina stampa pubblicata da Le Pla, dell'ambasciatore francese a Venezia. È uno dei primi che reagisce per iscritto, di dire il proprio parere alla corte perché ne fosse tenuto conto. E mi pare significativo perché è una reazione esclusivamente codificante, cioè che assume, io credo, coerentemente il testo nella sua puntigliosa materialità, per cui vuole mettere in luce e rivendicare tutta una serie di ambiti, di atti, di oggetti precisi e determinati alla competenza ecclesiastica, sottraendoli alla competenza dei principi. All'opposto sta ad esempio l'atteggiamento dell'oratore spagnolo, che certamente anche, come diceva ieri, perché era quello tra i grandi ambasciatori che aveva maggiori difficoltà delle istruzioni tempestive per ragioni di carattere logistico, ma non solo per questo, certamente la posizione dell'ambasciatore spagnolo è di questo genere: io mi rifiuto di dire una sola parola, questo è un testo talmente inaccettabile che qualsiasi parola che dicessi supporrebbe in qualche modo che io mi siedo intorno ad un tavolo con questo testo conosce. Questo io non faccio. E infatti Luna non scrive una riga su questo argomento. Naturalmente fa parte delle intransigenze del personaggio, però aiuta anche a capire il carattere, secondo me, provocatorio che aveva questo testo sulla riforma dei principi, così redatto. Tra le più interessanti, a mio modo di vedere, sono le osservazioni redatte per uso interno, ma che poi vengono largamente trascritte da Ferdinando nelle sue istruzioni ai legati, agli oratori e nelle sue lettere a Morone, le osservazioni del vice cancelliere Feld, che già è stato ricordato e che certamente è un uomo notevole finezza politica e di percezione anche di tale di molti problemi, il quale immediatamente fa la notazione politica chiave che Ferdinando ritrascriverà integralmente, malgrado certamente l'atteggiamento di Ferdinando fosse un atteggiamento fondamentalmente distensivo, e cioè Feld dice subito: stiamo attenti, qui c'è la trappola. In realtà, mettendo questo capitolo nella riforma generale della Chiesa, si vuole suscitare la reazione dei principi, e una reazione tanto forte da far saltare tutta la riforma della Chiesa. Dopodiché si dirà: la riforma della Chiesa non si è potuta fare perché i principi ce l'hanno impedito. Noi dobbiamo evitare. A me pare, malgrado le proteste di Pallavicino, che Feld avesse fondamentalmente colto il nodo del problema. Certamente di questa opinione è stato Ferdinando I, che ritrascrive pari pari questo punto pregiudiziale nella sua reazione, le sue istruzioni. Secondo lui l'intenzione della parte della riforma relativa ai principi è quella di far fallire tutta la riforma e farne ricadere la colpa sulle potenze secolari. E aggiunge per spiegarsi, dico questo perché la Reformatio Principum non tende a ripristinare il culto divino. È largamente inapplicabile nell'impero o negli altri paesi ed è essenzialmente un testo di invece di controversia. È abbastanza diversa, almeno nelle formulazioni, la reazione di Carnot di Francia, la reazione della cancelleria francese. La riforma, dice questa reazione, colpisce i principi, mentre tutto il parere di riforma è estremamente leggero sugli ecclesiastici, soprattutto sugli ecclesiastici. Ma questa è una cartinella, questa è una presa in giro, questa è una truffa. Da 50 anni la cristianità aspetta la riforma degli ecclesiastici e ha detto che se arriva al progetto di riforma, il punto veramente duro della riforma è la riforma dei principi. Ovviamente mette in luce un altro aspetto, quello appunto dell'attesa dell'opinione pubblica, diciamo, europea, che non forse poteva essere straordinariamente classificata dal contenuto molto spesso incerto del pacchetto di riforma concordato da Morone, ma che in ogni caso, ecco, almeno dal punto di vista della cancelleria francese, vedeva cadere l'accento quasi esclusivamente su questo punto della riforma dei primi. E aggiungeva, la riforma intende disconoscere le prerogative e i privilegi dei principi, eliminando il comunica. E questo, altro punto cruciale della reazione francese, non potrebbe avere, se fosse approvato, altro che un effetto di seminare disobbedienza nei popoli contro i principi. Dunque non solo la riforma dei principi minaccia prerogative inalienabili, sono i principi stessi, ma tende a introdurre un elemento di ribellione. Facciamo una parentesi per dire una cosa che secondo me non è priva di interesse, e cioè che queste reazioni dei principi sono simmetriche e speculari con le reazioni della Curia Romana ai progetti di riforma. Usano letteralmente i medesimi argomenti. Cioè, cosa sono? Si vogliono togliere ai principi prerogative e diritti sanciti immemorabili. Questo era esattamente quello che dicevano, se ci piacciono certi pareri già analizzati dai Limpognano Campesi, di Tommaso Campesi, ci troveremo di fronte alle medesime argomentazioni applicate agli ecclesiastici. Come si possono togliere questi? Non solo, ma l'argomento ulteriore, e che cioè una riforma in qualche modo profonda avrebbe sconvolto l'opinione dei sudditi fedeli nel linguaggio degli ecclesiastici. E infine, altro argomento che mi sembra molto divertente, perché anticipiamo subito, questa riforma doveva parare, la riforma dei principi, va a parare in una clausola che rinnovava tutte le leggi esistenti che tutelavano le persone e i beni ecclesiastici. Ma questo era la luna nel pozzo degli zelanti. Questo avrebbero sempre voluto la Curia Romana e i vescovi zelanti, che la riforma della Chiesa consistesse nel rinnovare le antiche leggi che erano state esistenti. Questo dico facendo una parentesi, peraltro non tanto marginale, perché questo confonde le idee, ma deliberatamente le confonde anche a me, ma perché le cose sono in termini certamente di notevole, in modo notevolmente arrovigliato e confuso. E non c'è dubbio che sul piano tecnico Le argomentazioni che usano i principi per rifiutare la propria riforma sono del tutto equivalenti a quelle che usano gli ecclesiastici per evitare o per respingere la propria, gli ecclesiastici naturalmente curiali, conservatori, per respingere la propria riforma. Questo non vuol dire che siano di uguale peso e di uguale giustificazione storica, forse completamente diverso, non vorrei essere tra i due. Il parere della posizione della cancelleria francese conclude con forse l'unico argomento di principio che viene speso in tutto questo dibattito. Il Consiglio, se approvasse questo testo, compirebbe un atto di intrusione nella sfera politica, che è ambito, che è sfera distinta e separata da quella ecclesiastica. Da questo punto di vista, probabilmente la tradizione gallicana aveva fatto maturare in modo più rapido che non poniamo nella cancelleria imperiale determinati oggi. Ecco, non c'è più tempo il passato, lo so. Adesso cerchiamo di tirare le imbarche il più rapidamente possibile. Perché mi sono permesso di dire questo testo è un testo a sorpresa ed è un testo controversistico, litigioso. E ho preso in mano, per capire qualche cosa di questo testo, due testi classici che tutti abbiamo usato per capire la problematica della riforma della Chiesa, e cioè il livello ad Leone X di Guerini Giustiniani del 1513 e il Consiglio delle Nate Chiesa. Che cosa c'è sulla riforma dei principi in questi due testi che costituiscono un po', per come dire, il parametro e potremmo aggiungere persino il libro dei sogni della riforma della Chiesa. Quindi Giustiniani, che avevano una grossa esperienza politica alle loro spalle, non parlano tecnicamente di riforma dei principi, ma pongono chiaramente un problema classico che attraversa tutto il Medioevo, e cioè il problema che la Chiesa induca i principi a rispettare la pace. Dunque una accezione, credo non impropriamente potremmo dire, di riforma dei principi, ma ricondotta ad un punto cruciale, classico, del dovere dei principi, quello di garantendo la pace, di consentire una vita ordinata alla Chiesa e alla cristianità. Ma nulla in questo lungo testo di Guerini Giustiniani, nulla che entri invece nella tematica che poi troviamo così riccamente sviluppata nel progetto politico. Il Consiglio di Metà Ecclesia. Il Consiglio di Metà Ecclesia è per gli aspetti più radicali. Voi sapete, il Consiglio rispondeva alla domanda, al tema posto da Paolo III. Quali sono gli ambiti da riformare? E all'inizio, il gruppo che ha redatto, il Consiglio risponde che essi esporranno tutti, omne, i punti che dicono riforma, nessuno escluso. Era solamente un modo corretto di mettere poi Paolo III di fronte alle sue responsabilità. E poi cominciano, voi sapete, il primo è la causa maggiore, fondamentale della decadenza della Chiesa, quella perciò la quale bisogna riprovedere per prima, perché è la causa di tutta la deformazione ecclesiale, è il fatto che la volontà del Papa è divenuta legge. E poi gli amici. Ora, in tutto il Demendante Ecclesia io non ho trovato una parola né una riga che possa essere sia pure indirettamente ricondotta alla problematica della Reformatio Principum, così come la troviamo nel progetto conciliare. Non solo, ma mi sono chiesto, ma che fine ha fatto? Ecco, tutto un patrimonio prezioso, forse solo un nome, scusate, il De Concordantia Cattolica. Certo, De Concordantia Cattolica si ricorda che la Chiesa è l'anima e l'impero il corpo, perciò una formula apparentemente molto medievale. Ma poi si sviluppa su questo sfondo, sviluppa un discorso della riforma della Chiesa e della riforma dell'impero nettamente distinto. La prima e la seconda parte, come sappiamo, della Reformazione cattolica riguarda la riforma della Chiesa attraverso il Concilio, la terza la riforma dell'impero attraverso i suoi organi. Non ci sono, se vogliamo, non c'è dubbio, non ci sono in Cusano le asprezze, le punte polemiche che potremmo trovare in Occam o in Marsiglio, ma c'è, direi, un'assimilazione serena, peraltro, di una distinzione, di un'articolazione molto netta, che se in Apicibus, immagine del corpo umano di cui la Chiesa costituisce l'anima e l'intero il corpo, ecco, è ancora altamente medievale, poi ha già realizzato una coscienza molto precisa di come gli ambiti esigano una loro reciproca articolazione. Ecco, ricordo questi, probabilmente molti altri di voi potranno aggiungere altri punti di riferimento per in qualche modo rendere conto della valutazione che io ho creduto di dare di questo testo presentato al Concilio come di un testo che costituisce una sorpresa rispetto alla tradizione di questa problematica negli ultimi 100 anni di dibattito sulla riforma della Chiesa. E allora, per concludere, due punti. Da un lato, quale potremmo, per il mio grado, ritenere scopo e significato di questa Reformatio Principum nella fase calda, indubbiamente, anche se poi al lieto fine del Concilio. Abbiamo detto, certamente nella misura in cui questo tema emerge dai vescovi, viene portato avanti dai gerarchi, cioè dagli avversari della riforma della Chiesa. Non c'è dubbio che di fatto nello sviluppo del Concilio, dei lavori del Concilio, questo argomento diventa essenzialmente materia di scambio. Non dà mai l'impressione di essere un argomento che si voglia portare fino in fondo, cioè all'approvazione. Ma è un argomento di scambio, indubbiamente, forse ancora una volta Morone molto abile, perché lo usa e nei confronti dei vescovi zelanti, dicendo, in fondo, c'è pure ancora una traccia di questa vostra istanza, e perciò, a un certo momento, guardate cose che non posso adesso ricordare dettagliatamente, c'è un gruppo di vescovi zelanti che fa una specie di dimostrazione, cioè si fa ricevere da Morone e dichiara formalmente che essi non incominceranno neppure la discussione sulla riforma generale della Chiesa se Morone non garantirà che si discuta anche della Reformatio Principum. Era un modo, direi, inequivoco di manifestare il significato della Reformatio Principum per questi vescovi, ma era anche, certamente questa dichiarazione è stata fatta anche agli ambasciatori, infatti si ne trova poi traccia nei dispacci che gli oratori mandano alle potenze. ma deve il cambio da parte del legato nei confronti dei miseranti, ma certamente anche nei confronti dei principi. Non poche delle attenuazioni introdotte negli altri capitoli di riforma, secondo me, vanno ricondotte alla disponibilità abilmente graduale che Morone ha mostrato nell'attenuare il capitolo sulla Reformatio Principum. C'è una lettera che vorrei ricordare dell'8 settembre del 1563, cioè nel pieno di questa vicenda, nella quale Borromeo scrive a Morone che secondo il Papa non è poi il caso di scaldarsi troppo per la riforma dei principi, perché tanto se non la si fa in concilio la farà ben dopo il Papa a concilio più. Su questo poi torniamo un istante a proposito di Borromeo e delle sue vicende post-conciliari. Certamente, ecco, mi pare che sul lungo periodo la vicenda della Reformatio Principum, come è avvenuta al concilio, ha voluto dire che, anche sulla base di questa lettera che ricordavo, che fondamentalmente il rapporto con le potenze secolari non era questione del concilio, ma veniva riservata al Papa. Questo non è mai formalmente enunciato, ma è il risultato di fatto di questa vicenda. Ricordiamo, non è la prima volta che succede questo. Se noi riandiamo a Costanza, ci troviamo esattamente nelle medesime situazioni. Chi fa i concordata nazioni? A concilio fondamentalmente chiuso, fino a qui. E l'altra considerazione in tutt'altra direzione, ma non meno interessante, è che certamente attraverso questa querela sulla Reformatio Principum viene radicalmente e definitivamente per l'epoca moderna emarginata la presenza a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma del popolo di Dio nei concili. Indubbiamente l'impossibilità di trovare un terreno comune sulla riforma dei principi indicava una sostanziale passo avanti, non solo nella distinzione tra Stato e Chiesa, per usare una terminologia facile, ma anche nella clericalizzazione dei concili, che è evidentemente un problema molto diverso. In prospettiva, in prospettiva, ecco, che cosa si può vedere? Il testo, ho detto, si riduce a pagine. Paleotti giustamente annota ormai è un testo, quello che va alla sessione è un testo insignificante. In realtà, appunto detto, era un testo che aveva prefigurato in una sua lettera Ferdinando, che Borromeo si appresta ad accettare e che Borromeo ha una sua difficoltà ad avallare, un testo in cui diceva è bene che i principi rispettino gli ecclesiastici e i beni della Chiesa, si rinnovano tutte le norme precedenti in uso. Anzi, il progetto prevedeva che si, anche qui molto alla superficialità con la quale questo discorso viene portato avanti, prevedeva che si elencassero le norme che riguardavano questo argomento. È cosa completamente pazzesca, perché avrebbe esigito, credo, il lavoro di 6 mesi di un canonista di grosso livello per fare un elenco completo delle norme che riguardavano che respingevano le interferenze laiche nei problemi ecclesiastici. Infatti, poi nelle immediate prossimità della sessione del 3-4 dicembre, tutto questo viene lasciato cadere e si fa un rinvio generico alle norme precedenti. Sinonché interviene, questa è un'altra cosa che non spiegare, spero che lo possa fare eventualmente ieri, interviene un'aggiunta al testo votato, che a mio modo di vedere non è prima completamente di interesse, anche perché forse non vale estremamente la maggioranza. Dopo aver detto queste cose, i principi rispettino gli ecclesiastici, i loro beni, la loro giurisdizione, la fanno rispettare dai loro ministri secondo le norme già esistenti, e si aggiunge questo. E questo non era mai comparso in nessuno dei testi precedenti, in nessuna delle trattative e delle lettere precedenti. Abeoque era in re, quibus officium sum seculo prestet, occultus divinus, devote exerceri et prelati, ceterique clerici, in residenti et officis suis, quieti et sine impedimenti, cum fructus et edificatione popoli permanere valeant. E secondo me costituisce una cesura radicale con tutti i costi. Questo è un discorso completamente diverso. Qui si dice che i principi e comunque i loro ministri, i loro rappresentanti, devono darsi carico che il culto divino possa essere esercitato in modo devoto, che i prelati e i generi sacerdoti possano risiedere e svolgere le loro mansioni, fieri e sine impedimenti, con frutto e edificazione popoli. Che voleva dire non solo abbandonare tutta la tincaglieria, tutta la serie delle piccole o grosse, ma discussioni puntigliose di carattere giurisdizionale, ma aprire una prospettiva completamente diversa. Positiva e non di controversia. In fondo, che dice la Chiesa, fatta la Chiesa, ai principi tocca di non disturbare questo, di garantire, cioè, un ambito in cui questo possa essere fatto serenamente. Io non so chi abbia redatto questo. Per la stessa ragione metodologica precedente dovrei pensare ancora a Paleotti, ma naturalmente diventa molto difficile attribuire alla medesima mano testi tanto differenti. Certamente questo testo sta nei decreti della 25ª sessione del Consiglio. Dopo che cosa succede? Ecco, sappiamo tutti, succede la rinnovazione della bolla in Gira Domini, che porta diretta a Bellarmino e alla potenza diretta e temporale e a tutto il neotemporalismo moderno, ma porta anche in un'altra direzione. E allora mi consente il Venuti, mio amico Paolo, di ricordare cose che forse lui ha quasi dimenticato, e cioè di quei testi che lui ha pubblicato, i testi di Carlo Borromeo, la controversia giurisdizionale a Milano, dopo il Consiglio, naturalmente, Borromeo era arcivescovo di Milano. Ed è interessante, non posso leggerli naturalmente se non una riga o due, è interessante che dopo avere per alcuni anni condotto avanti la controversia con i rappresentanti di Pio II a Milano, esattamente nei termini del progetto di riforma dei principi, cioè codificata, puntigliosa, controversistica, fino all'estremo, fino all'esasperazione, dopo il 1589, come giustamente ha rilevato, mi pare per primo, però, Carlo ha un ripensamento radicale e cambia radicalmente la propria politica, spiazzando Roma, esitando ancora una volta, ma non era la prima, non sarebbe stata l'ultima, perché Carlo cerca la via della intesa serena per, potremmo dire, non sono parole sue, ma comunque per il culto divino e per il frutto edificazione del popolo, con Pio II, e la prova un po' che rimane. E Carlo non è solo un praticone, ma ha riflettuto e sull'atto che stava facendo, e sul suo significato. E infatti, nelle sue lettere che sono state pubblicate, c'è traccia esplicita di questo. C'è ad esempio questa istruzione molto interessante del maggio dell'80 al suo, dei suoi collaboratori, Marcatelli, quindi dice esplicitamente che visti tutti i travagli del mio governo spirituale, che non toccavano se non le cose della giurisdizione di questa Chiesa, ecco, il rischio di ridurre l'impegno di un vescovo post-tridentino della statura di Carlo Borromeo a litigare col potere politico. Carlo se ne rende conto, e si rende conto anche che non solo l'accordo tra la Santa Sede e il re di Spagna era di là da venire, ma vengo che ne surgono alla giornata molte di nuovi, lontanissimi, invece da ogni interesse di giurisdizione. Altri problemi che impediscono grandemente i progressi spirituali di queste anime. E allora mi sono risolto a mandare per posta formalità il re, il presente sacerdote religioso che doveva trattare per suo incarico un altro regime, un regime cioè in qualche modo di coesistenza, di buon vicinato, di collaborazione, l'abbandono cioè della controversia di tipo giurisdizionalismo. Questo mi sembra interessante ed ho finito, perché ripropone ancora una volta, ma forse in un modo ancora più intricato del solito, il rapporto tra decisioni tridentine e post tre. O perlomeno esigerebbe di poter entrare con bisturi della critica storica, molto meglio e molto più di quel che non ho potuto fare, tra la prima e la seconda parte del testo finale approvato dal Concilio di Trento. Mi pare chiaro che Carlo Borromeo inizia il suo governo a Milano con l'orizzonte della prima parte del testo rimasto, cioè chiedere il rispetto da parte di Filippo II di tutte le norme medievali sulla giurisdizione ecclesiastica. Dopo alcuni anni cambia radicalmente strada, e non dico che consapevolmente non ha importanza, però certamente imbocca la strada che poteva vedersi prefigurata in filigrana nell'ultima parte del decreto che sta approvato. Chiedo scusa per molte cose ripetute e per l'infame tenuta. Abbiamo le 11:05, facciamo adesso 10:20 e facciamo adesso una pausa qui fino alle 10:15 e poi cominciamo la discussione. Gesetzescharakter hat, sondern eigentlich in einer Ermahnung, in einer Aufforderung ausmündet, dass die weltlichen Gewalten, die das Bild, den Kult, das Seelsorgs, die Seelsorgsarbeit der Kirche fördern sollen. Dass das die Lösung, die dann Karl Borromeus nach 1579 gefunden hat, sich mit Philipp II. Direkt zu einigen in diesem Punkt, dass das die zukunftsfeste Lösung war. Aber ich muss doch noch, eben wie ich schon andeutete, einen Widerspruch anmelden. Die Querellen, die in den drei Redaktionen der Fürstenreform niedergelegt waren, das waren ja nicht erfundene Querellen, sondern das waren die täglichen Sorgen der Bischöfe und speziell auch, und das muss man im Auge behalten, wenn man dann, wenn man berücksichtigt, dass die Legaten und auch Morone auf diesem Projekt bestanden, die Querellen der Bischöfe, die schon in der ersten Tagungsperiode, als zum ersten Mal von der Residenzpflicht die Rede war, vorgelegt worden waren, enthalten ja schon einen großen Teil dieser Impedimenta Residentiae, von denen dann die Rede war, also dass die Bischöfe nicht wagten oder nur schwer sich zur Residenz entschließen konnten. Und da spielten, und das möchte ich nochmal unterstreichen, da spielten die zahlreichen Bischöfe aus dem Königreich Neapel, bei der Sizilien sagen wir ruhig, eine große Rolle, die am meisten unter dem Druck der westlichen Gewalt, und zwar, und das ist auch wieder ein Punkt, wo ich doch nicht nur einen Kniff sehe, und zwar unter dem Druck der Ministry, also der Beamten, beziehungsweise in Neapel auch der natürlich der großen Barone. Aber die im Königreich Neapel litten die Bischöfe unter der Gewalttätigkeit, kann man ruhig sagen, der lokalen Verwaltungsbeamten, Richter und natürlich auch der großen Barone. Also mit anderen Worten, die Legaten in Trient waren für die Mehrheitsverhältnisse auf die Neapel, um die Mehrheitsverhältnisse zu bewahren, das heißt eine ihnen ergebene Majorität zu sichern, so wie heute, wenn eine Regierung eben die notwendigen Stimmen braucht. So waren die Legaten darauf angewiesen, die neapolitanischen und sizilischen Bischöfe nicht zu verärgern. Die mussten sie an der Stange halten. Und für die waren die Beschwerden über die Eingriffe in die kirchliche Gerichtsbarkeit, aber auch in die kirchliche Verwaltung, in das kirchliche Ämterwesen, in den kirchlichen Besitz, die kirchlichen Eigenkünfte, waren eine sehr reale und sehr drückende, ein sehr drückendes Anliegen. Das wollte ich nur noch sagen und will und möchte aber jetzt darum bitten, dass die wahrscheinlich nicht wenig zahlreichen Fragen, die zu diesem hochinteressanten Referat zu stellen waren, nun vorgebracht werden. Hochinteressant, ich sage das jetzt nur so, nicht etwa so nebenhin und nebenbei, auch da, wo ich etwa andere Ansicht bin, es ist immer für einen Historiker, für jeden Historiker, außerordentlich interessant, wenn an die Geschichte Fragen gestellt werden. Früher habe ich immer in meinem Seminar meinen Studenten klarzumachen versucht, dass die Quellen, die historischen Quellen, keine Lautsprecher sind. So habe ich es immer ausgedrückt. Das heißt, es ist eben nicht so, wie manche primitive Leute meinen, wenn man nur Quellen sprechen lässt, dann hat man die historische Wahrheit. Falsch, grundfalsch. Die historischen Quellen sind Zeugenaussagen, die ein Richter, so wie ähnlich wie Zeugenaussagen, die ein Richter bewerten muss. Und so, das ist die eigentliche Aufgabe des Historikers, eben diese Zeugen anzuhören. Natürlich muss er sie, und er kann nicht wie das manche Leute, soziologischen Systematiker heute vielfach machen, mit einem Netz von Begriffen dann an die Geschichte rangehen und dieses Netz über die Geschichte, die man nur aus zweiter Hand kennt, werfen. Man muss die Quellen sprechen lassen, aber man muss sie examinieren, man muss sie bewerten. Und das gilt natürlich in hervorragendem Maße auch für unsere Materie, für das Konzil und auch in besonderem Maße für die Fürstenreform. Also entschuldigen Sie, dass ich diese lange Einleitung gemacht habe, aber ich bitte jetzt, sich mit Fragen an den Referenten zu wenden. Ich bin überzeugt, dass da mehr als eine Frage zu stellen ist. codice. Ma appunto ci sono tante domande, forse per questo perché l'argomento è proprio un po' più l'argomento altamente centrale, altrimenti la gente non capisce niente. Per tutti i nostri discorsi, io volevo soltanto dire che condivido la tesi centrale, proprio, che mi sembra assolutamente valida, che il primo progetto sia un progetto presentato o lasciato presentare da Morone già con l'idea di farne oggetto di scambio nella forma generale, cioè l'abilità del Morone, credo, fondamentalmente c'è stato proprio quello di tirare in porto la riforma generale vendendo il decreto di riforma dei principi. Questo è stato, credo, il centro di tutto l'azione diplomatica del Morone degli ultimi anni. Rimane però il problema che non è stato certo il Morone a inventarlo, ma il progetto deve aver avuto, appunto, come ha detto Alberico, delle sue radici, insomma. A me pare che le radici vadano sia negli impedimenti e nei gravami a cui accennava Yedin, cioè in questa serie di lamentele diversi contro la invadenza delle autorità secolari, e qui attenterei forse soltanto rispetto ad Alberico la presenza di questi tipi di frizioni anche nel corso del Cinquecento, nell'età preconciliare, cioè ovviamente non trovo una ripercussione diciamo a livello di teorica della riforma cattolica, se vogliamo, di Libellus, ma credo, ecco, si trovino come sottofondo di continuità nella sensazione, ecco, che appunto il vecchio ordine, almeno medievale, di immunità ecclesiastica e di giurisdizione ecclesiastica, nel senso che viene forse ormai sepolto dietro l'attacco dei principi secolari, e non ci fosse appunto un nuovo ordine, quale sarà poi quello che giustamente ancora Alberico ha fatto presente nella conclusione di tipo pastorale, nella Salus Animarum, che gli ha posto appunto al centro di questo mutamento copernicano all'interno della Chiesa. Quindi secondo me c'è un sottofondo appunto che l'altro radice di questo atteggiamento, di questo decreto di concilio, e qui non ho i testi, ma si può, credo, appunto compiere uno studio, e appartiene a quegli studi che avrebbero dovuto fare, che non ho mai fatto, sulla bolla in Cenadoni, cioè la ripresa in questo testo delle formazioni principi, proprio dei temi fondamentali di quella bolla che ogni giovedì santo veniva emanata a Roma, secondo una tradizione ormai secolare, insomma, da mattino appunto in poi, eccetera, con l'affermazione appunto dei principi ecclesiastico nei confronti dell'autorità secolare, sostanzialmente della vuole in Cenadoni. Giusto che tu dici qualche cosa sulla Cenadoni, perché sono convinto che almeno una parte dei nostri di quelli che sono qui presenti non sanno esattamente che cosa è la sulla Cenadoni. Giusto. No, la bolla di Cenadoni è appunto la bolla che viene emanata, detta così perché è emanata il giovedì santo a Roma, e che è formata di una serie di articoli che variano, adesso non ricordo più con precisione, ma credo dai 12 ai 20, 22, non ricordo adesso, a seconda che che ha man mano inserzioni di nuovi vecchi articoli. Ecco, è tutta una storia da fare, perché nessuno la sia, se io non conosco articoli. Sì. C'è un articolo sullo sviluppo del testo nella Reuscatace. Sul sviluppo del testo. Però, no, del testo fino a Pio V, mi pare. Perché quando ho detto, perché io conosco una vecchia cosa di 30-40 anni fa. Ah, oh, sì, è vecchio. Sì, ecco, adesso lo ricordo, è molto vecchio, cioè, non esistono studi. Quello la Bombinico mi pareva così molto ancora approssimativo, ecco, non esauriente, non ho grossi ricordi, ecco, ma in cui vengono inseriti appunto certamente clausole contro la prestazione degli ecclesiastici, contro coloro che invadevano i beni ecclesiastici, eccetera, per le cause ecclesiastiche, anche contro le eresie, cioè c'è tutto un misto ovviamente, appunto con la conclusione dello scomunica per i laici che avessero contravvenuto a questo. Quindi io credo che appunto il tema sia molto interessante proprio nella misura in cui esiste questo filone. Io anche tra i legati tenderei ovviamente, io sono parziale, a vedere rappresentato nel Simonetta, che è anche in questo periodo maglino di poco reggere, insomma, ecco, può essere stato il maggior rappresentante a Trento di questo tipo di esigenze legate appunto non solo agli zelanti, ma anche alla tradizione foriale in senso specifico, insomma, canonistica nel senso più stretto del termine, e appunto la verità del nome credo sia consistita proprio nel giocare la riforma dei principi non solo contro gli zelanti ma anche contro il partito curiale di Simonetta, sostanzialmente, che proprio nel corso degli ultimi tre mesi del concilio viene messo completamente fuori gioco, cioè, proprio da parte, proprio nella misura in cui questa alleanza tra il cardinale Morone e l'imperatore, sostanzialmente, con la posta di Lorena, eccetera, tronca qualsiasi possibilità, che invece, appunto, a Domenico ha perfettamente ragione, che con questo progetto iniziale si voleva, credo, decisamente interferire, insomma, o almeno ostacolare la conclusione del concilio. Grazie. Forse che cosa ancora da dire? Ma magari più avanti. Due piccole cose. Una, abbiamo già un po' cominciato a parlare. In Deutschland wurden in den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts diese Fragen, und zwar, mir scheint, wörtlich in diesen Formulierungen behandelt. Das waren die Probleme, die sofort auftauchten, als 1523, 1524 Konvent von Regensburg mit Campeggio, Ferdinand und die bayerischen Bischöfe ihre Reformen und die bayerischen Herzöge ihre Reformforderungen gegen die Bischöfe geltend machten und sofort antworteten die Bischöfe mit diesen Gravamina, und auch das, worauf Sie so interessant hingewiesen haben, die Austauschbarkeit der Argumente, auch das findet sich schon in den 20er Jahren, geht dann in die Gravamina, formuliert Gravamina ein, diesen Teil Gravamina Ecclesiasticorum contra Seculare, und da wird ja in unserer Reihe Reichstagsakten unter Karl V. von Anneliese Grundmann, das ist die Witwe von Herbert Grundmann, wird ein Sonderband über Edition dieser Gravamina vorbereitet, der hoffentlich nächstes Jahr fertig wird, und dann wird man näher verfolgen können, wie der Zusammenhang hier besteht. Aber ich hätte eine andere Frage noch. Wie hat Morone im Grunde, abgesehen von seinem taktischen Verhalten, wie war im Grunde die Einstellung Morones zu dieser Frage? Ich habe zufällig kürzlich im Zusammenhang mit der Edition von der Korrespondenz von Poole, einen Brief von Morone, Frühjahr 1556 an Poole. Da beschreibt er eine Auseinandersetzung mit Paul dem Sechsten, mit Paul dem Vierten, wo Paul der Vierte sich bitter beklagt über die Übergriffe der Kaiserlichen in die Jurisdiktion, ich war in Mailand und in Neapel. Und Morone kommentiert das gegenüber Poole und sagt, Poole soll all seinen Einfluss bei Philipp vor allem aufwenden, damit die Dinge hier bereinigt werden, sonst besteht Gefahr, dass der Papst Anlass zu einem Bruch nimmt, was ja dann noch eingetreten ist. Aber, sagt Morone, im Grunde sei er der Meinung, dass es gar nicht viel guten Willen braucht. Es sei also nur eine Frage des guten Willens, gar nicht schwierig bei einer Verabredung und sauberen Trennung der Dinge hier zu einer Lösung zu kommen. Also mir scheint, und auch wenn man sonst die Haltung hat, das Entscheidende bei Morone ist, Morone hat die Erfahrungen der Reformationszeit verarbeitet. Er sieht diese Probleme nicht nur auf dem Hintergrund der Erfahrungen der Reformation. Eine Bereinigung im Feld mit Rücksicht auf die Gesamtsituation. Ne? Während die anderen sozusagen auftischen diese Dinge ohne Rücksicht auf alles, was passiert ist. Diceva Prodi, come diceva Luther, certamente è presente, abbiamo un po' presente tutti, la insistenza con la quale c'è il tema delle interferenze del potere secolare, direi interferenze laiche, per usare una terminologia gregoriana, è ricorrente nel appunto nel gravamina, nella lista degli impedimenti, non c'è dubbio. Faccio una parentesi per dire che il riferimento alla Cena Domini è un riferimento certamente nella sostanza evidente. Tenderei a dubitare che sia stato un riferimento abbastanza presente allo spirito dei redattori, perché è singolare che la bolla non venga mai citata, neppure quando si prevedeva di citare i documenti principali che riguardavano questa materia. Sarebbe stato alla fine abbastanza semplice, tra l'altro, proprio fare riferimento alla bolla. In questo senso dubiterei che ci sia una presenza abbastanza puntuale. Invece, dicevo, il tema in più generale certamente è presente, perché, io vi devo spiegare, ho preferito, o non solo preferito, ma ritenuto di fare un più diretto riferimento al Libellus, al Leone Decimo o al Concilium Demendant Ecclesia che a questo tipo di documenti che pure esistono e che sono sicuramente materialmente molto più vicini, talora, letteralmente si ricoprono con espressioni del problema. Perché il mio problema, credo il nostro problema dal punto di vista storico, era quello ancora di capire come questo progetto nasce e poi come questo progetto muore. Allora, ecco, io credo che c'è una logica che attraversa il concilio. Questa logica credo che sia, malgrado tutto, figlia piuttosto del livello, cioè del concilio non demandante ecclesia, cioè delle correnti di riforma, che non figlia della controversistica che serpeggia in tutta Europa, ma che molto spesso è una cortina fumogena per nascondere la decadenza del Cetecusia. Ecco perché io ritengo che le ascendenze di un discorso sui principi nel quadro della riforma della Chiesa vadano correttamente cercate nei filoni di riforma della Chiesa, nei filoni forti di riforma della Chiesa, ancorché le ascendenze testuali, materiali, possono benissimo essere trovate nei testi a cui giustamente voi facevate riferimento. Qui c'è una scelta storiografica, se si vuole, ecco, sostegna. Quando certamente alle persone, ecco, Morone aveva presente allo spirito questo. Io stesso ho ricordato quando nella congregazione cattolica del 51 lui pone sette questioni aperte per il ritorno del Concilio a Roma, la settima, che forse non a caso, l'ultima, cioè quella che qualche volta la quale cade l'accento, è quella. Come si potrà, si torna a Roma, a Trento, aprire la riforma dei principi. Questo mi sembra una spia non priva di interesse sul fatto che il tema non fosse lontano dallo spirito di Morone, e questo qualcuno mi pare che si compone con la fisionomia globale di Morone. Ecco, Morone non solo, come dice giustamente Prodi, gioca la riforma dei principi per salvare la riforma, ma io aggiungo anche, come ho già detto, si giova anche della riforma della prospettiva sulla riforma dei principi per, come dire, tovare la riforma della Chiesa. Ecco, io ho un'opinione forse diversa dalla tua sull'incidenza della riforma di Morone. Perché Morone è una riforma seria, se pensiamo alla storia del Concilio, al rischio della totale evasione di questo problema, però è una riforma certamente largamente insoddisfacente, non per il 1967, ma per la Chiesa del 1564. Questo non vuol dire che poi appena la riforma va a Roma si vorrebbe di nuovo sposare il Concilio, queste cose le sappiamo, tu le hai fatto tutti a capirle, perciò figurarsi non va certamente sottovalutata, però mi pare che in questo sottile gioco di carattere politico, essenzialmente politico, Morone appunto utilizza con molta abilità, con stupefacente abilità, questa questione della riforma. Ecco, Simonetta, certo, non è che in relazione a questo testo emerga mai, perché che le fonti dicono, qualche volta parlano naturalmente delle iniziative o degli atteggiamenti di Simonetta, non ne parlo a proposito di questo. È giusto naturalmente, come dire, immaginarlo sullo sfondo, è del tutto conforme allo stato delle cose in Concilio. Il problema che ancora io non riesco al quale non riesco ad andare veramente vicino è chi può avere formulato questi tagli. Questo, non penso che neppure tu volessi pensare a Simonetta come il redattore. Mi pare che già nel giugno-luglio Simonetta non abbia più il potere politico di redigere dei testi, è già troppo fuori, insomma, questo ormai è avvenuto con la vita di Morone, non c'è più possibilità per lui, anche se poi l'immaginazione cresce, ma ecco, chi li ha redatti? No, Artista non c'è, la domanda è avvincente proprio perché non ci sono notizie, ci sono notizie. L'ultima redazione è dal 15 novembre in poi, insomma, è tutto chiaro, che il Morone che prende in mano l'ultima redazione, la prima so oft passiert es uns, dass wir über die Herkunft irgendeines wichtigen Textes, und zwar nicht nur kirchenrechtlicher Texte, sondern auch dogmatischer Texte, nicht Bescheid. Das liegt aber einfach daran, dass nicht alles in den Konzilsquellen einen Niederschlag gefunden hat. Bitte lachen Sie jetzt nicht über den Vergleich. Ich war befreundet mit dem letzten Botschafter im Vatikan, Ernst von Weizsäcker. Und der war ja vorher Staatssekretär im Auswärtigen Amt des Deutschen Reiches gewesen. Und der sagte mir einmal, die Geschichte des Deutschen Reiches, des Hitlerregimes, wird sehr schwer zu schreiben sein, weil die wichtigsten Entscheidungen mündlich getroffen worden sind, manchmal fernmündlich, telefonisch, und kaum einen Niederschlag in den Akten gefunden haben. Nun, das kann man nicht einfach auf das Konzil übertragen, aber man muss sich immer gegenwärtig halten, dass in der Geschichte des Konzils von Trient dunkle Stellen bleiben, so wie jetzt, wie Averio eben gesagt hat, wer die ersten drei Reaktionen oder eine der drei Reaktionen formuliert hat, wissen wir nicht. Wir können vermuten, dass Pariotti beteiligt war. Es ist, wie eben Prodi mit Recht sagte, unwahrscheinlich, dass Morone Simonetta dann gelassen hat. Jedenfalls nicht sehr wahrscheinlich. Sicher ist das auch nicht, aber nicht sehr wahrscheinlich. Und ob da ein anderer Kanonist, zum Beispiel der späte Papst, ich glaube Innocent war das, der ja auch Kanonist war, ob der vielleicht mitbeteiligt war, mir fallen jetzt die Namen nicht ein. Wie? Facchinetti, nicht wahr? Ganz richtig, Facchinetti. Das sind alles möglich. Aber wir können leider, und das gilt nicht nur für diesen Punkt, das möchte ich mal bei dieser Gelegenheit sagen, wir können tatsächlich, so viele Quellen wir über das Konzil von Trient haben, so großartig zum Beispiel die uns erhaltene und dankenswerterweise seinerzeit von Sickel vorbereitet und von Juster publizierte Legatenkorrespondenz ist, die wir ja für die zweite Periode überhaupt nicht haben. Das war ja mein größtes Handicap, als ich den dritten Band schrieb, dass für die zweite Tagungsperiode 1551-52 keine, praktisch so gut wie keine Legatenkorrespondenz vorhanden ist. Das heißt, was zwischen Kardinal Crescenzio und Julius III. Geschehen ist, wissen wir kaum. Man kann nur mit guten Gründen, ich glaube, dass ich gute Gründe dafür gehabt habe, mit guten Gründen annehmen, dass der Papst mit Crescenzio am Schluss unzufrieden war. Aber die Korrespondenz kennen wir nicht. Während wir eben für die letzte Tagungsperiode, die für das Projekt der Fürstenreform entscheidend ist, haben wir die Legatenkorrespondenz, und Alberigo hat ja mit Recht aus dieser Legatenkorrespondenz zitiert. Also, hier haben wir eine sehr gute Quelle und doch nicht für alles aus, weil die Legaten eben auch nicht alles und jedes nach Rom berichtet haben. Also, bitte entschuldigen Sie, wenn ich jetzt hier so mit so anspruchsvoll als da auftrete. Ich wollte nur auf einen wichtigen Punkt aufmerksam machen, weil ja hier am Tisch auch jüngere Historiker sind, die sich möglicherweise mal mit dem Konzil von Trient, aber auch mit verwandten historischen, nicht nur kirchenhistorischen Fragen beschäftigen, dass sie sich immer im Klaren sind über die Fragwürdigkeit unserer historischen Erkenntnis. Ich hatte ja tief beeindruckt, als ich nach dem Tode von Johannes Haller, des bekannten Tübinger Historikers, der die Papstgeschichte geschrieben hat, als ich nach dem hörte und las, wie skeptisch er am Schluss seines Lebens gegenüber der historischen Erkenntnis geworden ist. Und er ist nicht der Einzige. Also bitte, ich will Sie jetzt nicht etwa in eine solche Skepsis stürzen. Ich will aber Sie zur Vorsicht mahnen. Bitte entschuldigen Sie, es haben sich noch andere gemeldet. Darf ich mal fragen, wer noch Fragen? Wer noch Fragen auf der Seele hat, wie ist das nicht? Der Herr Cea, haben Sie nicht etwas zu fragen? L'ultimo punto, capo, Herr Berico. Con qui mi sembra un piccolo appunto di una lettera del scrittore spagnolo a Trento, dove parla di questo gioco, cioè se loro vogliono veramente puntare sulla riforma dei principi, allora noi diamo la battaglia anche sulla riforma del Papa, come si vede chiarissimamente che è un gioco. Sehr eindrucksvoll. Aber ich meine, was Alberigo gesagt hat über die Stellungnahme des Konzils der Luna, das sagt ja, kommt ja auf dasselbe hinaus. Kein Wort über dieses Projekt, nicht? das würde schon eine Art von Approbation bedeuten, nicht? Wenn ich nur einen einzigen Einwand dagegen erhebe, würde ich diesem Projekt schon ein viel zu großes Gewicht geben und es sozusagen als Basis anerkennen. Also in dem Punkt war die spanische Krone nicht zu Kompromissen, zu keinen Kompromissen bereit. Ja. Wenn sonst keine Fragen sind. Ja, bitte, Herr Lutz, so. Liebe Leute, was haben sich eigentlich die Verfasser dieser Reformatio Principum dabei gedacht? Abgesehen von den statistischen Zusammenhängen. Denn es muss ja für jeden damaligen Zeitgenossen klar gewesen sein, dass nur in einer engen Zusammenarbeit von Fürsten und vom kirchlichen Instand die bestehenden Verhältnisse gebessert werden können. Zum Beispiel, um das an einem Punkt zu erläutern, zum Beispiel die Reformvorschläge Ferdinand, die ja nur zum geringen Teil überhaupt auf das Konzil gekommen sind, da war in den Vorbereitungen auch berührt ein Punkt für die deutsche Kirche fundamental, die Konstitutione der deutschen Domkapitel, woran das ganze Problem des Adelsmonopols auf die deutschen Bischöfe, auf die meisten der deutschen Bischofssitze drin steckt. Also das war Ferdinand und seinen Leuten vollkommen klar. Und diese Punkte hatten sie vorbereitet, kamen nicht mehr zum Zuge, aber alle diese Punkte setzten ja voraus eine vollkommen andere Ebene der Verhandlung und der Einsicht, nämlich Zusammenarbeit von Fürsten und Geistlichen, als sie in dieser Reformatio Principum gestanden hat. Also was wollte man eigentlich? War das überhaupt ernst? Konnte das überhaupt ernst gemeint sein? Also ich würde sagen, nein. Sì, no, ma questo non dire io, perché so wie auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil bei jeder sich passenden Gelegenheit die Bischöfe ihre Sorgen und ihren Kummer sich von der Seele geredet haben, zum Entsetzen des Plenums des Konzils. Man musste sie ja glücklicherweise war die Redezeit ja beschränkt, sonst hätte man allerhand erleben können. Genauso war es auch schon in Trient. Die Bischöfe sagten, jetzt hier auf dem Konzil, da müssen wir mal unseren Kummer von der Seele reden. Und da müssen Sie bedenken, ich habe eben mit Herrn Miele gesprochen über das Königreich Neapel und über die, wie viele sind in Kampanien? Wie? Quanti Vescovi sono in Campania? 47, bloß in Kampanien, 47 Bischöfe. Das waren halt Pfarrer, das waren kleine Leute, die im Vergleich mit den königlichen Beamten und erst recht mit den großen Baronalfamilien natürlich so klein waren, nicht? Lilliputaner waren. Und die wollten etwas, eine Stütze bekommen. Also ich glaube, das darf man nicht ganz aus dem Gesicht kassieren. Also von deren Seite war das, würde ich sagen, war das sehr ernst gemeint. Dass die nicht die tiefere Einsicht hatten, von der eben Herr Lutz gesprochen hat, dass man auf diesem Gebiet, auf diesem sehr schwierigen Gebiet des Verhältnisses von Kirche und Staat, ich möchte sagen, sich zusammenraufen muss. Die Einsicht hatten sie nicht, konnten sie gar nicht haben. Dazu war ihr Gesichtskreis viel zu beschränkt. Aber das, was sie täglich bedrückte und wo also ihr, wo sie mit ansehen mussten, dass ihre Pfarrer unter Umständen angekerkert wurden, wenn sie irgendetwas getan hatten, was dem betreffenden Gouvernatore zuwider war oder vielleicht auch gegen die Gesetze war. Dann das wollten sie geändert haben, nicht wahr? Deshalb meine ich, es ist, man darf nicht ohne weiteres von Anfang an unterstellen, dass die Befürworter dieser minikulosen, dieses Katalog sozusagen von Beschwerden, dass die Befürworter also alle möglichen politischen Hintergründe, Motive gehabt hätten. Das glaube ich nicht mehr. Ich attacco ancora alla domanda se era seria o non seria l'intenzione, ma se nella misura in cui è vero ciò che Alberico ha detto, che questo era un siluro, in questo senso doveva essere seriamente inteso, mi pare, e il sospetto, io non so rispondere alla propria domanda che pongo, il sospetto mi aumenta quando proprio guardando ai vescovi del Napoletano mi ricordo che tolte le 24 o 6 mi pare, la gran parte di questi erano curialisti che risiedevano a Roma, almeno quelli presenti a Trento, buona parte dei vescovi napoletani, erano, cioè pochi, quei 4 o 5 erano imperiali, ma gli altri erano curialisti e tra i curialisti più accesi, Alifanus, eccetera, insomma, no? Ma di più è sempre su questa domanda che infatti la posizione e le istanze portate avanti dai vescovi del Regno di Napoli non possono secondo me essere lette, poniamo con l'ingenuità con la quale le ha lette Prodocimi dicendo appunto poverini, questi erano presso i baroni, queste sono storie, questa gente non stava in diocesi. E perciò la oppressione che riceveva dai baroni poteva al massimo essere una controversia fatta per lettera a proposito di determinate regne. Non era un problema reale, non era un problema realmente. D'altronde io sono tentato di costruire la relazione in un altro modo. E cioè, di supporre per un momento che il progetto dell'estate del 1563 è stato approvato e di provare insieme a voi a chiedersi cosa sarebbe successo. Qual era il senso di questo modo di procedere? Era quello di rendersi conto che il progetto, secondo me, non è solo un progetto privo d'anima, cioè che non ha un orizzonte né politico né storico reale, ma che è un progetto, come ho detto prima, provocatorio, cioè un progetto che non intende realmente affrontare problemi specifici nella dimensione in atto in quel momento, ma che massimizza tutti i punti di frizione in un modo interporio. Ecco, se noi proviamo a prendere uno qualsiasi di questi punti e a chiedersi cosa sarebbe successo, ci rendiamo conto che non è possibile chiedere, non chiedere, ma pensare realmente che che il potere politico, grande o piccolo, l'imperatore, il re di Spagna o il governo di Firenze, ecco, fossero realmente disposti che si potesse dietro. E mi sono chiesto, c'è un'immagine, il redattore aveva un'immagine di una cristianità, come dire, ottimale, ideale, che il decreto potesse ripristinare. In realtà la mia risposta è no, o eventualmente, se si volesse dire sì, bisognerebbe quantomeno immaginare qualche cosa di equivalente all'Itatus Pape, che in realtà non è esistito, è un fatto puramente documentario, puramente. Cioè, non ho l'impressione che ci sia, quando ho detto, forse quindi ho dato il luogo io più, quando ho detto che è un progetto controversistico, che è un progetto di tipo codificante, non per questo io lo ritengo un progetto realistico. Perché si potrebbe dire, va bene, la scelta del relatore di Morone, che in ogni caso va avallato, perché certo quando è stato distribuito agli oratori e poi ai vescovi aveva ovviamente l'avallo del Collegio dei Legati e specificatamente di Morone, non c'è dubbio. Invece di eventualmente immaginarsi o la linea che poi seguirà Borromeo dopo l'80, o la linea che si potrebbe immaginare del tipo impegnare i principi nella garanzia della pace, in quel momento indubbiamente da un punto di vista, se si vuole un po' ottimistico, però la cura d'anime era certamente non poco impedita dalla guerra permanente che affliggeva l'Europa. Si potrebbe dire, va bene, il redattore non si è messo in quest'ottica, si è messo in un'ottica, diciamo dai tetti in giù, un'ottica più modesta, l'ottica di sciogliere quella, come dire, quel tipo di controversie che giorno per giorno, in un modo magari fastidioso, umiliante, condizionano o opprimono la cura d'anima. Ma io non ho l'impressione che questo sia il livello a cui si pone il progetto. Non è questa la preoccupazione reale. D'altronde, un altro riferimento fare. Prendiamo Diverti, mi piace che non ci sia troppo. Diverti, quando ha affrontato la riforma di Verona, ha portato principalmente contro il potere politico o contro la indisponibilità degli ecclesiastici? Perché ricordo io del libro di Prosperi, mi pare che non ci siano dubbi, Ora, se tante volte, ha ragione, abbiamo detto molti decreti del Concilio di Trento sono la ripresa fedele dei provvedimenti di Diverti, questo per dire, cioè, in realtà si poteva lealmente essere convinti che gli impedimenti opposti dal potere politico fossero il nucleo centrale della decadenza della Chiesa, questo è impossibile. In buona fede era assolutamente impossibile ritenere. Si poteva ritenere o da chi non decideva, che perciò lo invocava come una giustificazione. Allora, ma io faccio questa. Natürlich, was Sie jetzt gefragt haben, ist klar. Die Dekadenz des Klerus war nicht verursacht durch das Brachium Säkulare. D'accordo. Obwohl auch sogar bei Diverti ja erhebliche Hindernisse von Seiten der Signorie in Venedig aufgetreten sind. Aber das lassen wir mal beiseite. Dennoch bin ich der Meinung, ich halte an meiner Meinung fest, dass die Querellen, die kirchenrechtlichen Querellen, die in den drei ersten Fassungen der Fürstenreform gesammelt worden sind, obwohl sie selbstverständlich dann einem Plan der Konzilspolitik dienstbar gemacht worden sind, was ich ja nicht leugne, das habe ich ja gleich am Anfang gesagt, obwohl sie einem politischen Plan dienstbar gemacht worden sind, dennoch von denen, die diese Querellen formuliert haben, und zwar nicht erst 1562, sondern schon 1546, während der ersten Tagungsperiode, dass die durchaus ernst gemeint waren. Und wenn man einwendet, ein großer Teil dieser neapolitanischen Bücher bestand aus Kurialen, so ist das richtig. Aber Sie hatten ja doch ihre Vikare, ihre Generalvikare. Sie hatten ihre Temporalienverwalter. Und die hatten ständig mit den staatlichen Stellen bzw. den Baronen zu tun. Also von deren Standpunkt aus war es durchaus erklärt, dass ernst gemeint, dass sie Änderungen wollten. Und zwar, natürlich war das in, nach Meinung dieser Behöfe ein außerordentlicher Fortschritt, wenn sie hätten sich auf das Konzil berufen können. Wenn sie die Dekrete des Konzils hätten nehmen können und sagen können, hier, das Konzil hat das und das bestimmt und der Bischof von der König von Spanien hat das Konzil angenommen. Das war natürlich, wäre natürlich hätte ihre Position vollkommen verändert, verbessert. Also ich halte in meiner Meinung fest, lieber Alberico, Sie wissen ja, dass wir und dass unsere Freundschaft darunter nicht leidet, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben. Aber ich halte daran fest, dass das nicht vorgeschobene oder simulierte Beschwerden waren, sondern wirkliche Beschwerden, deren Abstellung man wünschte. Dass die Abstellung solch dieser Beschwerden nicht gleich die sehr daniederliegende Seelsorge und das Niveau des Klerus gehoben hätten, das gebe ich selbstverständlich zu, das ist zwischen uns keine Kontroverse. Das ist ohne weiteres richtig. Nur mein, und ich halte auch aufrecht, was ich vorhin gesagt habe, dass sich Verbeißen in den damals und bis zur Französischen Revolution auf das Privilegium Immunitatis, nicht wahr, auf das Privilegium Fori, dass dieses Verbeißen, was ja die Kirchenpolitik der folgenden zwei Jahrhunderte ausfüllt und in den Nunziaturberichten einen großen Platz einnimmt, weshalb sie so langweilig wird, diese späteren Nunziaturberichte, weil sie nur noch eigentlich kreisen um diese Dinge, um Benefizialsachen und dergleichen. Das scheint mir, sollte man doch nicht leugnen. Natürlich, die Art und Weise und die politischen Zwecke, die man mit dem Lancieren des Projektes der Kirchenreform verbunden hat, ist ganz sicher, und dass die Celanti hofften, damit die gesamte Kirchenreform zu torpedieren auch. Es scheint mir richtig, dass, was eben vorhin Cody gesagt hat, dass man Morone unterstellen darf, dass er doch eine Reform wollte, dass er nicht wie die Celanti, die er ja beiseite geschoben hat, dass er nicht wie die Celanti also nur den Anschein erwecken wollte und sozusagen mit der Fürstenreform die allgemeine Reform torpedieren wollte. Das darf man ihm nicht unterstellen. Er war ein politischer Mensch, ein Politiker, ein Vollblutpolitiker, würde man heute sagen, Morone. Und nur weil er das war, konnte er dann auf dem Konzil, eben das Konzil aus dieser entsetzlichen Krise herausführen, in die es geraten war. Es war ja doch haarscharf daran, nach meiner Überzeugung, dass im Frühjahr 1563 das Konzil auseinanderbrach. Was hätte das für Folgen gehabt, wenn das Konzil von Trient 1563 auseinandergegangen wäre, wenn die Franzosen abgezogen wären, nicht? Oder der Kaiser Ferdinand seine Bischöfe, vor allen Dingen seine Botschafter, seine Oratoren zurückgezogen hätte, wäre ja eine Katastrophe senza pari gewesen. Also deshalb stehe ich Ihnen ganz offen, dass ich also nicht diese Ansicht von Ihnen, von Alberico, nicht ganz klar. Aber es sind ja noch hier Lutz und ein Hauptproblem scheint mir dieses zu sein, wieso und warum diese Querelle, diese Forderungen in einen solchen Rahmen gestellt wurden. Einen Rahmen, der utopistisch einerseits ist der andere bleibt in einer extremen Einseitigkeit nur die jurisdiktionellen Schranken betont. Es musste ja eine, um dieses Gedankenspiel von Alberico aufzunehmen, es musste ja der Zustand zerstört werden. Der vorhandene Zustand einer wie immer gearteten Zusammenlebens von Weltgemeinschaft musste ja zerstört werden, wenn man das ernst nehmen wollte. Und es waren ja überhaupt keine Vorschläge für eine Zusammenarbeit enthalten. Also das Ganze ist ja nicht ein psychologisches Problem, sondern auch ein geistesgeschichtliches Problem, aus welchen mittelalterlichen Paradiesvorstellungen kommt das heraus, und zwar der Staat dann überhaupt wirklich nur mehr als ein Nachtwächterstaat. Und die Kleriker sozusagen wandelnd im Besitz einer uneingeschränkten Souveränität vorausgesetzt, also ambulando, nicht wahr, hier wie im Paradies, und niemand kann ihnen etwas tun, und der Staat muss nur dafür sorgen, dass also, wie gesagt, als Nachtwächter dienen. Also diese ganze Inquadratur, nicht wahr, so ist so. Daran arbeiten wir ja, nicht so etwas zu verstehen. Und nicht, dass die Forderungen vorgebracht wurden, nicht, dass die Forderungen berechtigt waren, sondern sie in diese Form zu bringen. Mi viene in mente adesso la discussione che si aprì in conclave dopo la morte di Pio IV, tra il dicembre 65 e il gennaio 66, perché mi pare importante proprio anche a questo scopo, forse vado un po' fuori, ma cioè è il primo conclave dopo il Concilio di Trento, si tratta di scegliere il nuovo Papa, e a me sembra che questi problemi entrano dentro con la violenza politica, anche qui c'è l'influsso della Spagna, eccetera, ma c'è Borromeo che ha praticamente il dominio del conclave, insomma, ecco, sia pure condizionato come cardinale il voto del Papa di Fuse. Si avanza la candidatura a Morone e Borromeo la porta avanti. L'obiezione che viene fatta è che Morone è un uomo, testualmente mi pare il diario di Santoro, se non mi sbaglio, di poca religione. Poca religione. Io ho pensato molto su questo appellativo di Morone, insomma, perché non credo si riferisca ai precedenti filoeretici di Morone, perché loro avrebbero detto, cioè non tocca, cioè il problema di poca religione non può essere riferito a un comportamento. Tocca la pietas, non tocca la dottrina. Ecco, a mio avviso l'attacco che viene fatto a Morone e che porta alla sua esclusione e all'elezione di Pio V di Leri, credo vada ricercato proprio in questa direzione. Cioè Morone era importante. Era visto da tutta la Curia romana come un uomo politico, che in qualche modo, a mio avviso, insomma, ecco, aveva accettato le istanze dello Stato moderno, non solo delle riforme, ma le istanze dello Stato moderno, e cercava di portare avanti questa linea, insomma, ecco, da un lato pastorale, dall'altro lato di accettazione di quella che era la concentrazione del potere, la sensazione dell'impossibilità di ristabilire una immunità ecclesiastica, un ordine ecclesiastico che fosse in qualche modo sottratto al potere dello Stato. A mio avviso il gioco che si fa nel conclave successivo al Concilio di Trento è collegato proprio con la discussione che stiamo facendo oggi, cioè Roma, il collegio cardinalizio, nonostante di Borromeo si fosse impegnato in questa direzione, perché la sua prima candidatura, non più forte se ricordo meno, proprio quella di Morone, retrocede di fronte a una posizione curiale, che è ancora dominante, e in cui si coagulano tutti gli interessi, insomma, e che porta invece a una scelta di un Papa che ritorna a quella frase che Luis Calderigo citava di Borromeo stesso, poi, cioè queste cose non sappiamo, ma le faremo noi. In fondo Borromeo scinde, non ha. Lì riferiva certamente l'opinione di Pio IV, il contesto non c'è dubbio, che però riferisce probabilmente. Non è il Borromeo maturo degli ultimi anni in cui dopo l'esperienza pastorale. Quindi lui è inserito nella mente curiale e dice in sostanza queste questioni che sono così che in concilio non si possono raggiungere proprio per questi legami che i principi hanno con i vecchi, eccetera, cerchiamo noi, come Roma, come Curia, di portarle avanti. E questo è anche il mio richiamo alla Bolognina Domini, perché era anche dopo il concilio, era proprio in questa direzione, perché mi sembra che la Bolognina Domini che viene, se non mi ricordo male, votata da Pio V di tutti quegli elementi più secolari, insomma, ma ricordiamo che precedentemente certe redazioni della bolla addirittura riservavano al Papa l'approvazione per i nuovi pedaggi, nuove tasse, insomma, c'erano tutta una serie di. Ma viene votata e messa al servizio proprio di questo tipo di impostazione curiale che riemerge dopo il Concilio in modo molto forte, anche pur non essendo stata appunto codificata niente fatto, ma respinta ai margini nell'occasione della discussione della formazione principe. Questo mi sembra. O no? Aber im selben Konklave wird Giovanni Ricci, der Kardinal Giovanni Ricci, der Finanzgenie, abgelehnt, nicht? Das ist doch im selben Konklave, wenn ich mich nicht irre, nicht? Mhm. Nicht wahr? Also, abgelehnt, ja, hat er auch eine poca religione, poca religione. Natürlich hat er eine uneheliche Tochter, die als Nunzio in Morone non si poteva fare accuse tipo morale, no. Ma infatti io non permettevo, non era un'accusa politica, ancora benissimo, ma non è, ecco, un'accusa politica nel senso, cioè, che non vorrei ci fosse ambiguità su questo, quando si dice Morone uomo di poca religione, non in realtà è contrapposto, cioè non è un'accusa di essere politico e cioè poco spirituale, secondo me, ma è un'accusa di essere politico in un certo modo, perché si era perfettamente consapevoli che Ghisleri era anche di un politico in un altro modo. Questo. Politico, diciamo, collegato, poi ma una fantasia, anche se sarebbe bello, con la tradizione che si sviluppa in Francia poi nei decenni seguenti, perché i politici francesi acquistano un significato preciso negli anni 70-80, proprio in questo senso, insomma. Ma è die Frage, die ich naiv stellen wollte, wer ist eigentlich der Adressat des Projektes? Sind das allgemein die Fürsten oder welche Situation ist genauer angegeben? Sie sprechen von Neapel. Wie ist es mit der Situation in Frankreich? Ist das vielleicht ein Problem? Jedenfalls die ganze Reaktion in Frankreich, auch während der ganzen nächsten 50 Jahre, ist im Grunde so, als ob das Konzil von Trient eine Fürstenreform wäre, diese Fürstenreform wäre. Die ganzen Argumente, die gegen Trient gebracht werden, im Namen der gallikarischen Kirche, im Namen der gallikarischen Freiheiten, sind so, als ob das Trienter, die Trienter Dekrete, Dekrete wären, die sich an die Fürsten richten und nicht an die Kirchen richten. Wie ist das? Ma certamente, io poi vorrei tornare un momento sulle cose che diceva Luce e infine su quelle di Rima, ma certamente credo anch'io. Sicuramente non si voleva con questo progetto colpire la Spagna. Questo è chiarissimo, è l'unica cosa chiaramente documentata. Il Papa fa scrivere questa volta a Borromeo, forse è una mano fedele ma non convinta, però scrive ai legati, il Papa si è impegnato con gli ambasciatori di Filippo II che la riforma dei principi non lo disturbi, per cui fate, arrangiatevi, ma la riforma non deve disturbare Filippo II. Dunque Filippo II non era il destinatario. Se secondo me il destinatario fondamentale principale non era neppure l'imperatore e la situazione tedesca, e anche da questo punto di vista il collegamento con il Gravamina è solo indiretto, secondo me. Perché Morone sapeva benissimo che poteva fare ogni cosa in concilio, ma non rompere con l'imperatore. Perché tutto era giocato sulla solidarietà con me. E non voleva lui. Non voleva perché non poteva, e sono tutte due le cose. Mentre credo anch'io che il destinatario principale fosse la Francia. Anche perché in fondo si è a cavallo del viaggio a Roma di Lorena, e si è ancora forse non del tutto sicuri della solidarietà di Lorena, come si vedrà poi in autunno, e perciò certamente disturbare i francesi non era secondario. D'altronde, aggiungiamo questo, che i francesi si sentono i più colpiti dal progetto. Io non ho ricordato, perché per certi aspetti fa parte solo il folklore e abbiamo dovuto cercare quello che è per evitare, ma la questione della riforma dei principi viene alla ribalta del plenum dell'assemblea consigliare solo in un caso, e cioè con la protesta violentissima che Duterier fa, completamente fuori tempo. Secondo me è una cosa che andrebbe studiata. La protesta di Duterier non è rivolta al Consiglio, ma è rivolta alla Francia, cioè è un atto di politica interna francese, perché Duterier parla il 13 di settembre. Al 13 settembre i giochi sulla riforma dei principi erano tutti fatti. Ormai la riforma dei principi era finita. E Duterier fa questo, non credo solo per le difficoltà, per i ritardi delle istruzioni. Le istruzioni che lui aveva avuto non solo vengono maggiorate, ma sono certamente di parecchie settimane precedenti. Ma perché, secondo me, Duterier sapeva che la cancelleria francese aveva bisogno, anche nei confronti degli ugonotti, di mostrare che l'atteggiamento in concilio non era un atteggiamento arrendevole, non era un atteggiamento di sudditanza o di... Ecco. Che poi ci fosse anche, questo non lo so, è veramente una domanda, ci fosse anche l'intenzione di mettere in difficoltà la politica di Lorena, che invece stava muovendosi esattamente in una linea convergente con Morone, questo può anche dare. In ogni caso, secondo me, il discorso di Duterier è un discorso di politica interna francese, che cioè va visto o alla luce delle esigenze della corte, o alla luce del dissenso tra Duterier e Lorena. Non è attinente, per questo non ne ho parlato prima, secondo me, alla discussione, perché alla discussione europea il dibattito era già superato, e Duterier fa questo grosso clamore in congregazione generale fondamentalmente per niente, perché ormai i giochi erano finiti. Però naturalmente mostra che i francesi si sentivano più delle altre nazioni oggetto di questa proposta, di questo progetto, per cui certamente se c'è una risposta alla domanda sua è nel senso della Francia. D'altronde questo in fondo è una linea che con infinite varianti continua fino a Vaticano I. Il nemico da colpire è sempre i gallicanesi, perché si spegne quasi più dei protestanti, perché il gallicanesimo è dentro, i protestanti ormai nel 63 sono fuori, ma per perdizione. Ecco, certo, il problema che lei pone è certamente molto, secondo me, molto, molto adeguato. Infatti, una delle dimensioni che mi ha mosso nel valutare il progetto nel modo in cui l'ho fatto è la sua, secondo me, non omogeneità rispetto al pacchetto di riforma. Non obbedisce, secondo me, ma questo richiederebbe un'analisi abbastanza lunga che non potevamo fare questa mattina, ma che andrebbe fatta rigorosamente. La mia ipotesi è che il capitolo 42, che poi diventa 36, poi diventa 35, ma insomma il capitolo della riforma dei principi non corrisponde, non è omogeneo con gli altri. Certo, il corpo è strano, è un mazzo erratico. Ecco, non perché tratta dei principi, vorrei essere preciso, non perché, ma perché ne tratta nel modo in cui ne tratta. Cioè, mentre l'ottica che ispira, se una parola potrebbe evitare di parlare sotto le nuvole, ma mentre l'ottica che ispira i 40 capitoli di riforma è un'ottica di una riforma non certo radicale, ma di una riforma seria, cioè ispirata a un rinnovamento reale, ancorché limitato, della Chiesa, qui aveva ragione, secondo me, sia l'imperatore che il re di Francia nello scrivere, ma che c'entra questo con la cura d'anima? Cioè, questo problema della coerenza tra il capitolo sul riformato principum e tutto il resto del paese di riforma è certamente una vita importante di ricerca. Ripeto, io mi sono mosso, però adesso qui non abbiamo né il tempo né io avrei il materiale per documentare come probabilmente andrebbe fatto, anche a cominciare dal linguaggio, per accettare ad esempio se è la medesima mano o se sono due mani, potrebbe essere una conclusione importante se si stabilisce che i capitoli di riforma della Chiesa sono di A, sia pure non identificato, e il capitolo della riforma dei principi di B. Già questa sarebbe una conclusione interessante. Ecco, io credo che quello che ha detto ieri da ultimo, e cioè non si tratta di problemi simulati, ci aiuta molto a ridurre l'apparente distanza delle posizioni, non per un concordismo, ma perché credo davvero che la distanza sia molto più piccola. Mi pare che sia molto giusto, cioè sono perfettamente d'accordo. I problemi che sono nei 12 punti del progetto non sono problemi simulati, non c'è di nulla più. Io non l'avevo detto, se ci avessi pensato prima l'avrei sicuramente detto, lo dico volentieri adesso, nel senso che non ho il minimo dubbio che non sono problemi simulati. Ma credo che a sua volta Yedin non abbia difficoltà ad essere d'accordo, da un lato che la formulazione è abile proprio nella misura in cui parte da problemi non simulati ma li maggiora. Cioè è una formulazione che maggiora la base reale di questi problemi. Primo punto. Secondo punto, che, e qui torniamo dal problema che dicevamo un momento fa, che la controversia giurisdizionale in questi termini al Concilio di Trento è un topos dei curialismi, è un topos dell'Islam. Questo mi pare che non si possa discutere. Canonisti, dei canonisti, non soltanto dei curialismi. Per quello che ho trovato io, però, al Concilio chi ne parla sono sempre le stesse persone, tre o quattro. Perché si documentano gli atti, naturalmente, appunto, sappiamo tutti che facevano tante altre cose che negli atti non sono documentati. Beh, però qui non c'è contraddizione, cioè non è in contraddizione, vuol dire tutto il sistema del diritto canonico che mette in discussione. Non è un aspetto marginale, sì. Ma non forse al discorso della Repubblica Cristiana e a tutti i resti di l'altro, insomma. Che altra questione? Una parola in difesa del Morone accusato di nuova religione, non da lei, il Morone ha dei nomi cari, non ha bisogno di difesa, solamente sono due cose separate. Una è si domanda che cosa significa, che funzione ha su tale circostanza del conclavo, una tale formula religione. L'altro argomento molto vasto komme wie es eigentlich mit Morones Religion gestanden hat, wie es eigentlich war, um Franke zu zitieren. Das Erste würde ich anders auffassen. Ich würde meinen, dass Morone diesen kurialen Gruppen, ja auch nicht einheitlich, diesen kurialen Gruppen, rundum verdächtig war. Morone war verdächtig in Religion und Morone war verdächtig in Politik. Und wie stark er in Religion, und zwar also in Doktrina verdächtig war, die ganzen Jahre hindurch, geht aus den Inquisitionsakten hervor, aus den Prozessen, die wir haben, auch 1567, 68, wie die ganze Korrespondenz von der Isabella Gonzaga vorkommt und bearbeitet wird. Er war durch und durch verdächtig in der Doktrina. Und in der Politik. Und nun. Also nicht nur zur Zeit Paulus des Vierten. Nicht nur zur Zeit Paulus des Vierten. Ja. Und auch noch 1567, 1568 suchen sie immer noch, werden immer noch Aussagen über ihn gesucht. Alle Leute, die mit ihm in Verbindung stehen und waren, die ganze Frage auch der Publikation der theologischen Schriften Pools, die an Morone gekommen waren. Und man könnte sich erklären, eine solche Formel, Poker Religion, dass man nach der Rolle, die Morone am Konzil gespielt hat, man nicht mehr direkt sagte, die Heresie vorzuwerfen. Und dass man ausdrücklich, also eine simulierte, ein simulierter Vorwurf, wie er eigentlich in der Religion stand, dazu sind wir auf sehr schwierige Interpretationen angewiesen. Mein persönlicher Eindruck ist, dass er so als Jünger von Pool, dass man sehr stark die Linie von Pool her ausprügelt, als dessen sozusagen Treuhänder und Testamentsvollstrecker, nicht nur im faktischen, sondern auch im religiös-politischen Sinn, er sich selber auch betrachtet hat. Aber Verzeihung, das führt uns schon wieder weiter. Aber Sie wollten ja noch ein, hatten Sie nicht noch vor, auf das Politische einzugehen? Nur, ich meine, Herr Lutz. Ja, warum? Rundum, Sie sagen, warum politisch? Man hielt ihn offenbar für fähig, aufgrund seiner unzuverlässigen Glaubenshaltung eine Politik zu machen, die der Fantasie schädlich war. Mhm. Also das wäre ganz abgekürzt. Also nicht seine Neigung zum Kaiser? Nein, ich glaube nicht einmal, dass In Spanien war er verdächtig. Ja, ja. Bei Philipp II. War Morone verdächtig, nicht wahr? Aber beim Kaiser war ja also persona grata, kann man ruhig sagen. Nicht, sonst hätte er das gar nicht in Innsbruck erreicht, was er erreicht hat im Frühjahr 1563. Ich meine, Morone hat das Konzil retten können, weil er sofort nach seiner Ernennung zum Legaten, zum Kaiser nach Innsbruck gereist ist und mit dem Kaiser übereingekommen ist. Wobei evident ist für mich jedenfalls, dass er den Kaiser, will ich sagen, betrogen hat, aber vollständig umgewandelt hat. Nicht? Ja, das ist die entscheidende Formulierung in dem Beschlussbericht von Morone, wo er in der dritten Person von sich selbst spricht, nicht wahr, dass die Leute glaubten nicht, der Kaiser glaubte nicht, dass Rom wirklich die Reform will. Der Legat kam, aber so haben wir gesagt, Sene costitui ostaggio. Ma io credo appunto che il tentativo di vedere gli spessori di questa espressione che Lutz fa è importante soprattutto per mettere in luce che è un'espressione volutamente allusiva e volutamente evocativa, cioè è fatta per sbarrare la strada a Morone, non per classificare Morone. Per sbarrare? È certo. Proprio mi permetto di rievocare una cosa che dicevamo ieri sera anche con Prodi e con Lee. Ecco, per me è equivalente, non nella sede ma nel significato, alle battute che ha avuto l'FR 3 mesi fa contro Willebrand, dove non c'è nessuna preoccupazione di classificare il cardinal Willebrand, ma solo quella di sbarare la sala al conclave. E perciò sarebbe impossibile ricavare una qualifica di morone dall'espressione che Prodi riportava, perché l'espressione non vuole qualificare morone, ma vuole semplicemente tagliargli le gambe.